cipolla. Prova la cipolla, va. No, parla più lentamente perché non riesco a regolare. Mettetevi di regolare. Buonasera. Buonasera. No, io ho visto vecchio proprio che sarà per lo meno 10 anni che non lo accendevo. E lo sto accendendo per pulendo i contatti, eccetera. Come capivo e dove mi trovi? No, arrivo in bene. Buonasera, non so con chi ho l'onore di parlare. Comunque prova che ti do il segnale. Ok, qui lo speaker mi dà un 2 in trasmissione, ma credo che possa andare più oltre. Dunque, devo chiamare Alfredo, se non ti va bene, non ti va bene. E se non ti torna, mi dica di tornare a mio posto. Lo aspetto, lo Alfredo. 9995 segnale, compicchia 95. La radio è chiara, perfetta, veramente una bella radio, dai. Io mi trovo zona via Valdesa, Sassari. Ecco, ma è abbastanza vicino, va bene, via d'aria. Devi andare un po' più lontano, comunque anche la tua modulazione è perfetta, bella, chiara, la cosa pulita, e forse un pochino alto, va bene così. Bene, Mela, ti saluto, continuo qui a fare pulizia, se ci vede, lo rimuovo, ora sono stata la tua madre vicina, di quello che lo riaccendo. Ah, Alfredo, no, ma lì la puoi usare, perché tanto noi siamo sempre qua sul canale 10, se ti fa piacere. A noi fa piacere avere un amico in più e puoi entrare ogni tanto, siamo abbastanza. Stasera non capisco perché non c'è ancora entrato nessuno, ma solitamente siamo una decina. E ok, io conosco Claudio, che è il radio amatore però è anche parecchio bravo. Ma Claudio entra ogni giorno qua, probabilmente anche all'ascolto adesso, non lo so. E tu che cosa sei, radioamatore? Questo è il confermo. Ah, cappa. E vabbè, dai, tanto ogni tanto fa piacere anche entrare in 27. Tanto tutti i radioamatori hanno cominciato dalla 27. Infatti, tutti da lì nasciamo. No, dunque, io... dagli anni 80, dai, diciamo dagli anni 80, e io non mi sentivo di molto bene, però tanto e va bene, ogni tanto adesso va bene, com'è il tuo nome che non... Il mio nome è Gianni, operatore doppio room. Ok Gianni, doppio room. Va bene. Spero di risentirti presto. Io adesso vi tolgo tutto, vi chiudo, tanto ancora con i tanti fieri che stanno. Buon proseguimento di giornata e buon resto del lavoro. Scappa, ti ringrazio, dai. Controcambiate tutto al centro, buona serata. E se ogni tanto ti vede lo scrivito, entra, che ci fa piacere. Ok, ci risentiamo le prossime. Ciao, ciao. Chi è che fischia? Chi è? Oh, buonasera. Ciao Tino, buonasera. Ciao, allora. Bene, bene. Cos'hai combinato di bello? Guarda, sto rientrando da Rossi perché avevamo un torneo di ragazzi e diciamo che dalle 9 sino a 10 minuti fa eravamo seduti in una lata di cemento guardando tutte le partite, quindi mangiando e bevendo, non è che va quello lì. Senza cuscini? Purtroppo no. Cazzo, perché è tuscio. Immagino. È dura il cemento, eh. Vabbè, è stata una giornata alternativa, differente dagli altri. Bene meda. Oggi ci ha fatto accompagnare il sole, dai. Sì, ti dico la verità che io ero sotto la tribuna, quindi solo l'ho visto ben poco, cioè l'ho visto in lontananza, ero sempre all'ombra, ma stava bene, lo vedevo noi, e stava bene. Non si è sentito nessuno ancora, no? No, ti ripeto, sono rientrato esagerando un quarto d'ora fa, quindi l'ho acceso, l'ho lasciato acceso da ieri, perché questa, essendo una radio un po' datata, un po' vintage, ne ho approfittato a lasciarla accesa. Ho capito, per farla correre, dai. Fagli sgranchire un po' il transistor. E allora. Non so neanche se c'è qualcuno all'ascolto, avanti, se c'è qualcuno che ha voglia di entrare, di farsi sentire dopo la lunga mangiata e bevuta della giornata del 1° maggio. Boh, io ho acceso poco fa. Sono andato a prendermi il tabacco alla macchinetta. E sono entrato adesso, quindi ho schiacciato e ho trovato a te. Bene, molla anche questo tabacco, così almeno risparmi. Io sono ben 15 anni senza toccarne neanche una. Via da te, io ci ho provato già 2-3 volte, e per una cosa o per l'altra, insomma, è molto difficile. Chi siete? Dove andate? Sì, ma quanti siete? Cosa volete? 2 euro. Un fiorino. Buonasera a tutti. Marco, non so chi c'è, ho acceso l'istante, ho sentito Gianni e cosa. Sono addirittura una platamona che non c'era posto a fermare la macchina. Mi ero parlato di ricevitore, ho sentito radioamatori e PMRisti. E così sono passato mezza serata. Buonasera a tutti, sto cucinando, perciò rimarrò in querisce. Ciao Tino, ciao Gianni. Tutto da solo, ciao ma tutto da solo, stai ancora cucinando, nonostante tutto ciò che ti hai mangiato oggi a pranzo, stai ancora cucinando. Bene, sono contento per te e sono felice, l'importante è che si viva sereno e tranquillo. Avanti Gianni. Ciao Marco, ben ascoltato, abbiata che si intendi, cioè tiri la pietra e poi scappi, così è, bubu, già ti sei fatto bandito, poi entri 30 secondi e fuggi, va bene. Bene meda, quindi sei andato a Platamona, così è, vabbè, adesso non so se sei vicino ai fornelli e lontano dalla radio, viceversa, boh. No, già sono qua, ehi sì, altro che pranzo, praticamente sto iniziando a scaldare l'acqua per fare la pasta di oggi, per pranzare, capito? Mi sono pigliato un caffè, comunque bella serata, non c'era nemmeno vento, c'era più vento a Sassari in certi punti che non a Platamona. Nel vialone tutto pieno, non ce la posso fermarsi, poi c'era l'antenna grossa VU con la bibanda, i ragazzotti di 20 anni come la fanno, una cedda sarà, scusate il termine, sembra che non ne abbiano mai visto, questa è tutta la gioventù di WhatsApp, mica crede che l'unico mezzo di trasmissione sia lo smartphone. Vabbè, ma ci siete solo voi davvero? Riprendi già la prima che sono al telefono. Guarda, io ho acceso poco fa, Marco, ho acceso poco fa, ho fatto un fischio ed è entrato Tino, per cui oggi sono entrato in ritardo, piuttosto tu che mi racconti? Vabbè, la mia vita è abbastanza piatta, poi avevamo anche la batteria a terra della macchina, era da cambiare comunque, però ricaricandola sono fatto un bel giro, vedo che ha tenuto, è da cambiare domani stesso, da Oceano e Piglione, quelle da 50 euro, tanto durano quanto le magnete Marelli che paghi il doppio, ne paghi 110 euro, dura sì 4 anni anziché 3, ma paghi il doppio, almeno durasse il doppio sarebbe tornerebbero i conti, capito già? Kappa, guarda, un consiglio. Se riesci a rimediare praticamente quelle farfalline, sgancio rapido, da collegare al morsetto della batteria, dico, se la macchina non la usi tutti i giorni, spessissimo, ti consiglio, anche per allungare la vita della batteria, apri il cofano, molli la farfallina e sganci il cavo, vedrai che la batteria ti dura un sacco di più. Guarda, io avevo pensato un'altra alternativa, l'ho visto da GBC in vendita, no? Forse da GBC o da qualche... praticamente dei pannelli solari che tu poggi sulla cappelliera dietro, no? E praticamente da una carica, seppur minima, la batteria, capito? Che sia 50-100 mAh, però la tiene costantemente in carica. Solamente bisogna far passare i cavi, beh, due casino, ma mi sembra un metodo altrettanto buono lì. Sì, noi la usiamo un giorno, poi la usiamo 3 giorni ferma, 5 giorni ferma, anche una settimana ferma. Capito già. Allora, come ho fatto io praticamente, al bulloncino alla vite lunga con la testa da 10 ho sostituito una vite però col pomello in plastica grande, capito? Ogni volta, cioè quando lo devo usare, apro il cofano, giro praticamente la vite col pomello in plastica, smonto, levo il contatto, ti devo dire che, cioè, la batteria della mia macchina ha fatto il suo tanto. Comunque devo dire che così facendo, perché è sempre un minimo di consumo, la batteria lo ha attraverso l'orologio, la centralina, altre piccole cose che chiaramente non assorbono tantissimo, però magari ti possono, insomma, hanno il loro consumo, e quindi ho avviato questa cosa con la vite e con la testa grande in plastica, due giri, sgancio, chiudo il cofano, poi quando mi serve rinfilo e parto, capito? Devo dire che è una soluzione semplicissima, ottima, ti fa risparmiare anche un bel po' di batteria. Proverò a cercarla. Certo, se avessi la foto avrei più presente come proprio fisicamente questa cosa. Casomai ti fai dare il numero da qualcuno di WhatsApp, l'unico rimasto attivo di numero, e me lo mandi tramite WhatsApp. Ok, comunque io adesso procedo, vediamo se Tino è rientrato, dai, riprendete, ciao, a dopo. Capo, un'ultima cosa, Marcoli, dimmi, mi fai un rapporto segnale, dimmi com'è. Potrei dire un 9 più 20, sì, quasi come Daniele con la Energy. Capa, perfetto, dai, bene meglio. Vabbè, dai, vai a controllarti l'acqua, a occhio al sale. Ciao Marco. Ciao a chi ha salutato, non lo sto riconoscendo, chi è? Va bene, non lo vuole dire, non c'è problema, me lo dice dopo. Ok, dai, Querix per me, a dopo, ciao. Ciao Marco, ciao. Avanti l'amico. Oh, sono timidi ogni tanto, Boh, no, non lo so. vabbè. Tino, ripreso? Oh, sono qua, è sempre, solo che mi stanno mandando dei messaggi su Motozappa, messaggi di lavoro, quindi devo momentaneamente abbassare la radio e rispondere quando mi arriva il messaggio. Hai capito già cosa intendevo? Lo so, è dura, è difficile, però io l'ho fatto, ti ripeto, 15 anni fa, ma mi è venuto così spontaneo che neanche io ci credevo, perché ti ricordo che io mi fumavo un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno, e poi fumavo pesante, fumavo la Marlboro, poi sono passato alle Diana, alle Mirit, e così via. So cosa, insomma, ci ho provato anch'io, per un po' ho resistito, poi la prima volta ci sono ricascato, non ho per accotta. La seconda volta ho riprovato, però insomma gli amici mi dicevano, cazzo, stai diventando troppo stravagante, riprendi a fumare. E niente, quindi sai, i tentativi li ho fatti, uno è durato insomma un po', l'altro un po' meno, e ancora insomma purtroppo ci sono ancora legato. Positivo, guarda, io la prima volta che ho smesso per 3 anni, e come hai detto tu, ho ripreso come una pera cotta. Ma sai perché? Perché stavamo pescando io e chiamiamo il mio compare, stavamo pescando e sinceramente non si prendeva un cavolo, quindi si è tutto vicino a me, si è acceso la sigaretta, quel verdicello a favore mi è arrivato a colore l'odore della sigaretta e il messaggio al nastro. E ha detto, beh, adesso vai, fai fare un tiro. Ma guarda, ho detto, mamma così, e come fare un tiro? E da lì, credimi, mi è venuto prima sì un pochino di cacogiro, perché dopo 3 anni che non fumo, insomma, un po' di effetto te lo fa. Però ho fatto da lì, ho fatto 2 tiri, 3 tiri, cazzo, mi è acceso la sigaretta e poi ho iniziato la grande per un altro anno intero. Alla fine mi sono comprato le sigarette, c'avevo una taschina, sono rientrato a casa e mia moglie l'ho fatto, eravamo appena sposati, ho detto, ascolta, ho buttato le sigarette, sono fatto, ho detto, da oggi non fumo più. E tu dici, sì, io ci credo domani. L'ho presa, l'ho presa sia come una sfida che come una puntiglia. È stata dura, credimi, per me era le prime 2 settimane, dopodiché niente, l'ho mollata niente, ma non è che sono stato lì a fumarne per dire oggi ne fumo 10, domani ne fumo 9, dopo domani ne fumo 8, no, ho messo di netto, per puntiglia e per sfida. Scusa che devo rispondere nuovamente. KK, vediamo se c'è doppio room all'ascolto. Gianni, ci sei? Attenzione Gianni, doppio room, ci sei? Attenzione Gianni, ora. No, il mio omonimo oggi non c'è. Lo so, scusami, però sai, quando sono cose di lavoro devo mollare la radio e a rispondere, perché è una cosa prioritaria. Vabbè, minimo, no? Sarebbe il colmo se facessi il contrario. Luia. Certo, questo palmare della ZG squadrato non è assolutamente ergonomico, cazzo. No, assolutamente, però è un buon compromesso. Perché sinceramente a me non sono mai piaciuti. Io ho avuto la possibilità di utilizzare tantissimi palmari, belli, però dove ti giuro, dove mi sono tenuto sempre buono e caro è quello della Midland, l'originale, non l'ho mai cambiato. Poi ho visto che il 48 quando ho utilizzato in macchina, soprattutto con l'aiuto dell'amplificatorino del lineare, aumentava anche un pochino la modulazione della radio, e quindi ho detto, oh, io faccio questo, non mi frega niente, perché poi se quando ho parlato era anche da normale, passava a amplificato, quindi ti puoi immaginare. E quindi ho tenuto sempre originale. Ho provato quelli grandi, quelli dell'Intec, che aumentavano, che avevano l'eco, che avevano la preamplificazione, che facevano la voce femminile, ne ho provato una marea. E ti dirò, forse per comodità, anche guidando, perché poi lo teniamo sempre all'attacco, sempre in mano, pronto a rispondere, e quindi guidando ce l'avevo sempre sulla mano destra. Era perfetto, quindi ho tenuto quello. No, questo vabbè, non so se lo conosci, ZG M95, è grigio col tasto giallo, ha il volume dell'amplificazione e l'interruttore del beep, è quello che mi ha regalato Massimiliano. Ed è praticamente è rettangolare, c'ha gli angoli quasi vivi, rispetto all'altro è proprio meno, non è ergonomico, capito? L'altro invece praticamente riesce a impugnarlo benissimo, è proprio fatto apposta. Questo non so come ti pigliarlo, boh. la batteria da 9 volt minimo. Sì, una batteria da 9 volt. Il LED in alto a sinistra rosso e il cursore davanti, insomma, l'altro giorno, quando ieri avanti ieri gli ho cambiato il mollone, perché il suo era, piano piano ho provato a stirarlo, sai, per ammorbidirlo un po', ho acceso la radio e non si sentiva più niente, allora praticamente ho cambiato il mollone con un altro che avevo di un baracchino non funzionante, un microfono di un Midland 44-117, di quelli sottiletta, quelli con il display verde, che hanno il microfono con il cambio canale sul microfono. Il mollone, quel microfono è molto più morbido, un po' più lungo, e allora ho deciso e ho fatto il trapianto. È proprio bene. Vabbè, guarda, se non lo so, se riuscissi tu a prenderti un ottavo, è molto più rilassato, tranquillo, pacifico, non per altro che schiacciare l'indice o il pollice al posto dell'impugnare tutta la parola. Più comodo, senza un bel dubbio, però pian piano magari arriverai ad avere ciò che desideri. No, per carità, no, vabbè, per me il fascino del baracchino è avere il microfono palmare. È questo che è proprio, che è sagomato, non è per niente anatomico, capito? Cioè è proprio rettangolare, è come ti piglia un pacchetto di sigarette. L'altro invece è più tondeggiante, insomma, praticamente la sagoma dell'impugnatura, e quindi viene meglio da usare. Ghiccio è proprio poco ergonomico, poi per il resto, per carità, non si sputa nel piatto dove si mangia, quindi va benissimo così. Quindi ben venga, vuol dire che mi dovrò abituare ancora, dai. Certo. Quello è vero, come si suol dire, anche una volta un atto non guardare in bocca, quello senza ombra di dubbio. No, per carità, anche a me quando mi danno le cose, poi io sono geloso delle cose che mi regalano, perché se me ne regalano vuol dire che qualcuno me le ha fatte con cuore, quindi mi piace, ma tutto in generale mi piace tenere in ordine e cercare di tenerlo il più bene possibile. Infatti adesso stavo guardando l'altro e sì, è proprio molto più stretto, molto più ergonomico, però il problema è che l'elettronica, perché mi stava salendo lo sghirivizzo di provare a modificarlo, ma l'elettronica di questo microfono è molto più grande e nell'altro microfono proprio non c'entra per niente. E quindi ciccia. Adesso stavo guardando lo strumento che mi ha dato Claudio per vedere i watt, ne sta segnando quasi 4 qua. Adesso l'altro giorno l'ho messo a puntino, ho accordato bene l'antenna e ho visto che anche quello che l'attrezzo sta facendo il suo lavoro, dai. Già va bene. No, io me lo devo prendere uno, ma da non spendere tantissimo, ma neanche siamo di quelli della ZG che segnano la cacca di cane, che già ne ho uno in confronto a un altro professionale che ho provato, che l'hanno prestato, insomma, ho tirato le puglia e diciamo che è un po' di perdita, quindi se riesco a provarne uno da non spendere tanto, però che sia stabilizzato, che sia insomma calato bene, me lo prendo anche io. Questo è uno ZG TM999, non so se lo conosci, ma vedo che funziona abbastanza bene, ho visto anche delle buone recensioni su internet, quindi insomma per lo strumento che è, si comporta bene, dai. Sì, io uno della ZG, è un po' attato, un HP201, è così, fa benino, non è un Kenwood, non è un Geisu, va benino proprio per radio qua. Certo. Come ti senti? Meglio di nuda, no? quando l'ho attaccato ero curioso di vedere quante stazionarie avevo, perché non avevo mai, insomma, da quando ho collegato tutto non avevo mai fatto un controllo, e poi ero curioso anche di vedere i fatti che stava tirando fuori questa radiolina. Appena l'ho attaccato praticamente lo strumento mi ha misurato 1 e 1 di stazionaria, quindi sono andato molto bene, considerando che l'antenna l'ho piazzata a occhiometro, tra virgolette, cioè nel senso che il radialino l'ho sistemato secondo indicazioni a 45 gradi. Per cui sono andato benissimo al primo colpo. Va bene. Sì. Aspetta un attimino, non lo ricordo, non l'ho ancora fatto. Non lo ricordo, cosa mi hai detto? TM999. Sì. Taranto Milano 999. Aspetta un po' l'accensione di questo computer. E giusto per farmi presente un pochino come era, perché non ce l'ho presente adesso. Rex. Avanti, buonasera. Buonasera, prima dei saluti ditemi se mi ascoltate o se ho pasticci nelle regolazioni. Allora, io ti ascolto con Santiago di 8-9, però radio quasi inesistente, se puoi alzarla è meglio. Ok, vediamo, io tiro su il mic gain e se non fischia così poi, che ho appena riacceso, ditemi se così si sente. Così va molto meglio, Vabbè, provo a metterlo al massimo allora. Sempre Alberto da questa parte, buonasera. E Colt Excalibur sempre in prova con qualche regolazione in più e un lineare ZG che mi hanno appena regalato, e dopo, quando avrete un attimo di tempo e avete finito il vostro QSO, lo accenderò e mi direte se esce, perché ancora non ho nemmeno provato ad accenderlo. Avanti Alberto, buonasera. Ti mostro da questa parte, ti mando avanti già nei presunti e poi ti darò tutte le regolazioni che desideri. Avanti già. Ciao Alberto, buonasera, ben ascoltato, Santiago 920, Radio 5 perfetta qua da Sassari Centro Storico. Ciao, buonasera, siamo vicini, la mia posizione è zona Scuola di San Giuseppe, dai, per intenderci. L'apparato è l'Excalibur SSB, quello solo con 40 canali, e adesso sono tentativo qui, anzi solo una cosa, il classico ZG alimentato a 220 col fil metallico che ho avuto anche in passato, dietro ha il regolatore delle due potenze e non so quale delle due usando. Lo accendo un attimo e qualche secondo. Hola, ditemi com'è. Allora, riprendo io. Per quanto riguarda, non so cosa stavi toccando, ma stavi gracchiando un pochino, quindi la radio un po' si è scesa e poi ha ripreso. Come segnale hai aumentato un pochino, non so che lineare, che tipo di lineare stai utilizzando, forse mi hai detto 747 se non mi sbaglio, o no? Stai gracchiando, non si capisce niente. Ok, un attimo. Ok, ora è spento e dovrebbe andare tutto bene, poi provo a riaccenderlo. Allora è uno ZG modello B132, è un arnesino che io ho già avuto in passato tanti anni fa e che conosco bene come struttura, e dovrebbe essere il fondo scala del suo passametro è a 200, sarà il classico 100M200 in banda laterale. Alberto, perdonami, guarda che stai uscendo praticamente con la radio sta gracchiando e ogni tanto c'è un innesco, è come se ci fosse un falso contatto tipo spinotto inserito male o qualcosa del genere. Ok, allora mi verifico bene il microfono e poi rientro, lo provo in PA nelle cuffie, un attimino, a più tardi. KK. Ok, va bene, è stato corretto già dietro, perché sono vai a peggiorare qualche cosa. Sì, l'ho visto già, l'ho visto. Mi sembra, no, non ce l'ho. Io avevo praticamente tutti quei pomelli che ci sono sulla destra e taglio a metà. Io ce l'avevo così prima. Giusto per farti capire com'era quello che avevo io. Questo ha l'accordatore d'antenna. Infatti sono andato su YouTube e ho trovato un tutorial in spagnolo comprensibilissimo. Ho visto praticamente, insomma, veniva spiegato come praticamente come funzionava il misuratore e come fare praticamente la taratura dello strumento e la cordatura dell'antenna. Insomma, ho fatto tutto ed è perfetto. Posso? Prego. Ehi, ho già, tu hai il TM999, quello l'ho avuto anch'io mi pare due o tre volte nella storia. E me li sono fumati tutti, perché tiene un po' pochi watt, no? Ti spiego, la sezione accordante, anziché avere le lamelle parallele, Tino già sa cosa sto dicendo, no? I veri e propri condensatori ad aria, non quelli fatti con quelle lamelle, c'hanno praticamente dei potenziometri delle radioline per regolare il volume, per cui sono molto delicati. Io praticamente ho attaccato il lineare, dicevo, beh, 100 watt potenza massima li terrà, magari non effettivi, e me le sono fumati due o tre, uno me lo sono fumato negli anni 90 e due dal 2010 in poi, resistono a pochi watt, ma solo se usi lineari, se non li usi non fa niente, non succede niente. Sì, ha ragione. È molto meglio quelli come facciamo lui per l'aria, dai, che accordano l'aria, perché non apparei mai di questi problemi qua. Considerando che io praticamente non ho pentolini, non ho friggitrici collegate, va benissimo, sì, infatti anche Claudio me l'ha spiegato, ha la commutazione 10-100, poi giustamente come dice Marcolino non ha quel tipo di condensatori lì che conosco, va benissimo, con la radio a cui ho abbinato ce n'è pure troppo, capito? Meglio. E poi ricordati che a me si bruciava sempre e solo la sezione accordante, cioè funzionava il rosmetro e il bathometro, ma la sezione accordante, che trovate due potenziometri, quelle radioline, non fatto in economia, vabbè, ZG purtroppo non è. Quello era quello che ho perso io, l'MFG, quello veicolare, aghi incrociati, strumento un po' piccolo, però faceva da 1,8 ai 60 MHz. Sparito in casa. Boh. Il demonio ci ha messo la coda e non solo. Vai Tino, ciao, sto gettando la pasta, dopo, ciao. Mi raccomando, condiziona bene che sto arrivando. Sì, è bello quello. Ma quello. Aghi incrociati stai dicendo, sì, bello poi. Ma quello fa solo. Quello che ho fatto se non sbaglio. Allora, il modello mio, guarda, lo trovi su internet, prima di tutto è un veicolare, quindi lo strumento è piccolo, è un po' piccolo, però visto che segnava abbastanza bene, paragonato ad altri strumenti, allora, MFJ 945E, accorda fino, poi c'è il preselettore anche per le bande, e faceva da 1,8 a 60 MHz, accordava di tutto e di più, purtroppo, te l'ho detto, qua c'è il diavolo che ci mette lo zampino, scomparso, non ho un rosmetro valido. Ho capito, ah sì, l'ho visto. Vabbè, perché quello vuol dire che le cose tue te le devi ritirare tu, e buttare la pasta se no si incolla. Vabbè Marconi, appena rientri o appena sei a portata del microfono, se me lo puoi dire, mi farebbe piacere sapere che apparecchio stai usando, ok? Allora, SuperSAR 3009 omologato, 40 canali, 4 watt M, 12 di picco FM ma non ci arriva. Quello classico, no? Allora, componenti classici, schede PT3006, belli componenti grandi, no? Trimmer grandi, che è un piacere girarli. Non so se ce l'hai presente, fatti dare il numero WhatsApp, non lo so, Claudio ce l'ha. Sai cos'è? Ho fatto un pasticcio con le schede, ho fatto un pasticcio con i cellulari, scambiano cellulare, schede, un cellulare partito, ho perso tutti i numeri che ci avevano ubrica, e quindi è roba lunga. Vabbè, fatelo dare. Posso mandare foto, mi puoi mandare foto di quelle farfalle che mi hai detto tu, attacca e stacca per la batteria. Avanti l'altro amico con l'Excalibur, avanti. Eccomi qua. Allora, dunque, ho provato il microfono in via, in cuffia, il microfono sembra andare bene, forse picchiettandolo forte emette qualche disturbo, ma ho provato a muovere il cavo e non ci il microfono, quindi mi viene il dubbio che questo innesco sia un problema a livello di emissione proprio, non so, ditemi adesso se è comprensibile con questa regolazione, sto cercando anche di tenerlo fermo e di non agitare troppo il cavo. Guarda, Albert, l'ha fatto anche in questo passaggio, proprio nella parte finale di questo passaggio, praticamente come che ci sia praticamente un contatto non perfetto e poi c'è questo innesco che va e viene. Quindi questo è il mio referto. Ti ringrazio, allora adesso lo apro e gli do una soffiata e inizio a guardare le saldature, dai, tanto si inizia sempre così. La prova del lineare va rimandata ad avere un microfono decente. Io ho sull'Excalibur ho il LED della modulazione e mi sembra che si accenda bene regolarmente sui picchi di voce e non ho accensioni incongrue, quindi tu mi dici che innesca, ma questo fischio non viene evidenziato dal LED della modulazione, però francamente altro non so. Ora lo apro, magari se ritrovo qualcuno dopo vi chiedo qualche ulteriore prova, dai. Ora te l'ha fatto, hai fatto tutto il passaggio quasi perfetto, a ultimo tra nuovamente fatto. Detesto questi difetti così intermittenti perché non se ne capisce niente. Provo ad abbassare un po' il mic gain, adesso per esempio l'ho abbassato, ora lo muovo, ora do dei colpi. No, adesso vedo che muovendolo emette scariche muovendolo, allora mi testo bene il cavo e i connettori. Infatti l'ho fatto, ma quando hai detto adesso muovo i mic gain lo stavo facendo, quindi bene o male sai dov'è il difetto. È entrato qualcun altro se non sbaglio, avanti. Niente, non è voce. È stato un colpo importante, abbastanza forte anche, però forse non voglio entrare. Va bene, io se poi non sono sicuro se trovo qualcuno quando riesco a richiudere il microfono, quindi per il momento saluto, dai, a più tardi. Siamo qua, ok Alberto, ti salutiamo, siamo qua comunque, avanti già. Kappa. Niente, vabbè, adesso anche nell'ultimo passaggio qualche scarichina da tipo falso contatto e anche quell'innesco lì. Mi viene da pensare o il mollone se stai adoperando un palmare o insomma l'attacchi vicino nella piega, vicino al microfono, vicino allo spinotto, oppure un po' di sporcizia nel cursore del mic gain. Insomma, adesso le sto bozzando così al volo, sono le prime cose che mi vengono in mente. Comunque dai, buon Corrix, se nel caso ci si aggiorna. Marco ha buttato già la pasta, se l'ha già mangiata. C'è uno passo basso, ma proprio molto basso, non so se lo senti te. No. Qua è Santiago 1.5, sento la portante col bip, però è proprio bassissimo. Ma magari c'è un briciolo di propagazione, ieri sera lo stesso, va bene, altra frequenza, magari c'era qualcosina, però ero lì giocando. C'è propagazione scia. Buona, vabbè. Rientrando ti mangiato come te li buchi. Sono entrati e c'è un po' di freschetto, tu davanti a passare presto e vado in manca, facciamo operazione. Forse alle 8, 7 e mezza, 8, dai. Quindi siamo rientrati. KK, e voi cosa siete facendo? Io adesso non posso quantificare quanto ci sono a casa perché non ho neanche dovuto, comunque ero a Ossi, un torneo di Gabriele che stava giocando e quindi sono rientrato, forse un'oretta fa circa. Anche io seduto dalle 9 del mattino, certo, non è allenata, dalla tribuna, sino a un'oretta fa vedendo, mangiando, bevendo, scherzando, guardando e quant'altro, ma sempre seduto, cacchio. Sono andato forse due volte per andare in bagno. No, noi la verità siamo andati anche dal vicino, siamo andati a prendere il caffè. Sì, ma non si può, basta, boh, sto scoppiando. Non c'è neanche, adesso fa un po', ti faccio una bella doccia. Poi mi guardo, c'è Barcellona-Liverpool, mi guardo un po' di sport, tutta lì, a televisione, tu vado, solo maniene, bevende, andene, turrende, dai. Oggi è primo maggio, è proprio la giornata delle scampagnate, ha fatto una bella giornata, però nel pomeriggio si è un po' rinfrescato il tempo, e quindi siccome io sto soffrendo molto il cervicale, questa cosa, Loretta, io... E con una mia a casa, i giovani, rimani divinchivi, vedi chi si arrabbiati, vedi i rappetti, ciao a tutti, invece buon viaggio. Qui c'è anche Gianni il profeta, sì, un po' di propagazione già. Quando c'è propagazione che senti questi bip in lontananza, tutti i bip usano in propagazione, capito? Proprio per far sì che ti danno lo stacco finale per sentirli. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Bene meda. Io lo stesso sono entrato poco fa. Ho beccato a Tino, c'è cioè Marcolino che sta lavorando di mandibola in quel Rix. E niente, poi ha fatto capolino Alberto, stava provando un apparato. Insomma, stava sistemando alcune cose. Sono sottovute a microfono o a qualche potenziometro, comunque siamo qua. Tino, nessuno c'è lì vicino a te? No, vai. No, tu devi pensare, o Gianni, che Marcolino Condo lavora molto con la mandibola, ma soprattutto lavora molto con la mano. Meglio, molto. Vedi, lui lo conferma, perché è un capo di bugnetta, capito? Lui la notte sogna tantissimo, nomi Campbell, Belen, capito? E quindi le viene lo stimolo. Infatti il braccio destro è tipo braccio di ferro, il sinistro è osciutto. Tipo braccio da tennista. Ciao Claudio, ben entrato. Oggi ho fatto un giro a Platamona, così. Bella giornata comunque. Si stava bene, non c'era nemmeno vento a Platamona, ce n'era più a Sassari in certi momenti, lo sai. C'era una grande manifestazione stamattina, così mi hanno detto, io non c'ero a Sassari. Comunque lì ai giardini della vecchia questura, Gazebi, insomma una bella manifestazione, lì per il primo maggio, organizzata dalla Proloco, Comune, eccetera, c'era un sacco di gente. Va bene. Hai capito Gianni lo profeta? Quindi stai attento, non lo istigare, perché lui è un istigatore. E poi soprattutto, capite, ci pensa e poi addio, si guasta la mano, si guasta. Soprattutto la pancia. A me era piaciuto questo termine quella volta, istigatore, mi sembra più che azzeccato, dai. Però mi devo dare una calmata, dai, perché non va bene per chi ascolta, qualche battuta troppo colorita ogni tanto. Va bene, dai, fatemi lavorare di mandibola. Oh Claudio, ma ti volevo chiedere, ma rispetto agli altri anni, cioè, la propagazione era bella che è arrivata, è anche bella evidente già in questi mesi, ma qua tutto tace, no? Non si sente nemmeno viva, non si sentono spagnoli, può essere. No, anche ieri c'era un bel po' di propagazione, anche oggi, per dire, in VNU arrivava la Liguria in diretta a Fondo Scala da me, ma anche lo sento Vanni. Anche ad Alghero c'era, insomma, un po' di propagazione, anche in 40 metri, poco fa in 40 metri stavo provando il 590, proprio per testarlo, per vedere un po', e c'era propagazione, e poi c'è ancora il Marconi Day, quindi c'è un po' di contest nell'aria, però propagazione già ce n'è. Il 27 ancora è un po' calma, perché c'è questo tempo che va e viene, ma adesso come inizia il caldo tu vedrai la propagazione che arriva. Spero che, insomma, arrivi più in fretta possibile. possibile questo caldo che non sia afoso, ma che comunque ti dà la possibilità di stare un po' all'aperto, perché, ripeto, oggi durante la giornata la mattinata era buona, primo pomeriggio si è un po' rinfrescata e quindi non fa stare fuori. Lo fate salutare a Gianni il profeta. Gianni! Avanti, avanti! Hai capito quello che ho detto? Vabbè, una piccola parentesi, ieri mi avete fatto morire da ridere, cazzo. Ieri proprio a un certo punto avevo anche le lacrime. Quindi ve lo dovevo dire, insomma, era giusto dirlo, era giusto fare questo tipo di rapportino, dai. Ci siamo calmati, io, Tino, Massimiliano, qualche un altro, ormai siamo grandetti, ma prima non si faceva altro che per ridere, scherzare, battute di un certo livello, insomma, però ormai ci sono vecchietti all'ascolto, gente grande, quindi non fa più, ma prima non eravamo più giovani, già scacchievamo parecchio con Tino, eh? Io ho messo... Beh, si scantonava, Si scantona, chi è avanti? Ciao, GFB. Chi è avanti? Ciao, Claudio. Ho passato la festa del lavoro. Sì, ciao, Orfe. E la Madonna, vedi mia la campagna, siamo rientrati poco fa. Adesso mi sistemo un pochetto. C'è il cane che è già addormentato di quanto è stanco, tutto il giorno che corre a destra e a sinistra. Tutto bene, Alfred, sì? Ehi, aspettiamo quello che ci manca. E va bene, dai. Prendiamola com'è intanto. Non si può fare diversamente, bisogna accettare quello che ci danno. Lo sentite, sì, a... Alfredo lì da Sant'Orsola a Tino, tu già lo senti, ma anche Gianni sicuramente. Sì, a voglia. Ciao Alfredo, buon sentito vicino. E voi siete uno di fronte all'altro in pratica, ma lo sentirà sicuramente anche Gianni, sì, un collega radioamatore. Anche lui ogni tanto si fa sentire, vecchio CB anche lui. Gianni, l'hai sentito Alfredo, sì? Sì, arriva. Ciao Alfredo, buonasera, ben sentito, ben ascoltato e benvenuto sul 10. Ok, ricambio circolarmente con il 10:27, la buonasera a tutti, scusate se ho qualche per Claudio. Ciao Alfredo, se non mi senti il VNU è perché non è che ho molto tempo, però oggi l'ho dedicata a qualcosa, ho fatto due passaggini, c'era Vanni, c'era Domenico di MN, c'era VOG, Roberto, insomma qualcosa, e poi mi sono spostato in 40 a fare due chiacchiere, ma giusto così per testare una radio. Ciao Alfredo, un abbraccio. Grazie per essere entrato a salutare, ti passo Tino per i saluti, vai ti. Non problem, ok, ciao Fred, mi hai ascoltato, vai. Ci si riascolta le prossime, ti lascio il tuo da fare, salutoni. Avanti Gianni. Eia, buon proseguimento, ben sentito, ben ascoltato, buona sistemazione di radio e console, ma console, insomma, e attrezzature varie, dai, già ci siamo capiti. Vediamo se Marco c'è ancora, ma forse sta ancora masticando. No, adesso ho già digerito, fra un po' evacuo pure. Ditemi che ero nell'altra stanza, dai. A Claudio. Marco mi ha detto che ha il suo contatto telefonico. Se per gentilezza mi mandi un messaggio col suo contatto, così mi archivio anche il suo, se ti viene bene, appena ti capita. Sì, il problema è capire quale ti devo mandare. Quello... il primo praticamente dove c'è il PPS. Allora, sì, sì, guarda, ti ho mandato un messaggio, ho scritto questo, sì. No, perché con questi cellulari non si riescono a gestire due cellulari, due schede, più quello, il numero fisso, il numero storico con l'altro cellulare. Ti ho detto, c'ho più cellulare che denti in questo periodo. Sì, vabbè, allora ti mando... sì, allora, vediamo qual è... Vediamo qual è, cos'è che mi hai mandato? Questo, sì, sì, sì, ok, sì, vabbè, ti mando questo allora, o Gianni, me lo scrivo e te lo mando, ok, il cambio pertino, così te lo mando subito, no, e non ci pensiamo più. Poi deciderò quale scheda tenere, perché a me questo Iliad mi sta buriando, perché dentro casa non prende quasi. Invece ho mobile, che sarebbe Vodafone, prende dappertutto, anche in casa. Sì, è una cagata, io non torno indietro, c'ho la team e va bene così, no, assolutamente. Va bene, vai, allora Tino, riprendi tu che mando il numero di telefono di Marco a Gianni, vai. Fatte, tranquilli, siamo qua. Volevo sapere cosa aveva cucinato Marco, ma non me l'ha detto. Ho detto, quando è finito, chiamami che mi avventuro, faccio una passeggiata, vediamo cosa... Allora, so che ha cucinato la pasta, ma non so come. Marco, non me le vuole dire, lì? Ho capito. Aspetti, stavo scattando una foto all'apparato, così faccio capire a Gianni che apparecchio è. Che apparecchio è? Dimmi tutto. Niente, sono già tre volte che ti ho chiesto cosa hai cucinato, che mi sei fatto una scappata a assaggiare se l'hai fatto buono, e ormai mi posso far affare. No, una banale pasta con sugo all'arrabbiata, roba piccante, blandamente piccante, parmigiano, una cosa sì, piatto unico, poi perché io ho preso un caffè fuori, non riesco a mangiare oltre il piatto, il primo, mi, in poche parole. Una volta mi sazio col primo, mi, in poche parole, ti, c'ho lo stomaco piccolo, la bocca è grande, ma lo stomaco è piccolo. No, scherzo, anche adesso così, non ho battuta giusto per vedere a cosa ti diletti nel tuo da fare in cucina. Perché anche a me piace cucinare, ma soprattutto mi piace mangiare, però mi dedico anche molto ai fornelli, in tutto e per tutto. No, io vabbè, so fare la pasta, so fare l'uovo fritto, so fare fesserie, non sono un cuoco provetto, ui. È abituato male qua, capito? Avere il piatto sotto il naso, pronto, è così, però non va bene. Ok, vediamo se Gianni ha ricevuto il numero. Aspetta che controllo. No, ancora no. Vabbè, no, non abbiamo fretta. Adesso per passare di palo in frasca, sarei curioso, adesso Daniele permettendo, se ne ha voglia e se è disponibile, sarei curioso di sperimentare, di almeno di testarla, di provare la Ringo per vedere che differenza c'è con la Boomerang. Purtroppo la Ringo della LEM è un po', io l'ho avuta, ho resistito un anno, poi l'ho tolta, non ne potevo più, ho messo subito la Energy, non c'è paragone, però ho fatto di isolarla bene, non deve entrare un filo d'acqua negli stili, nella bobina, eccetera, eccetera. Questo è un punto interrogativo, non so se l'antenna di Daniele sia una LEM, però vabbè, adesso pensavo che sarebbe stato interessante provarla per vedere praticamente la differenza tra questa Boomerang grande e quella lì, giusto così per capire. Poi come ho detto poco fa anche per il microfono e per lo strumento, insomma, io in questo momento sono più che a posto. Però adesso sarei curioso di vedere quale se ci sono le differenze importanti tra quell'antenna lì e questa, perché questa qua, per quanto sia tra virgolette piccola, vedo che si sta comportando abbastanza bene. e per la città ce n'è davanti. Naturalmente io sono sempre per, cioè se devi fare il colpaccio fai 5 ottavi se puoi, se no mezz'onda, però la mezz'onda Sirio o Laringo è ambigua, non so nemmeno come definirlo, cioè piove, le stazionarie vanno su e giù, ha un comportamento ambiguo quella della LEM, è l'unica rimasta perché la Ecoantenne ha chiuso anni fa, e quella era buona, quella della Ecoantenne. Laringo della LEM, io la chiamavo la Rinco perché è un'antenna, cioè, non so chi l'ha progettata, un sadico, non lo so. Non ti ha fatto niente. Ma Eugenio c'è. Eugi, non ti ha fatto niente, buonasera. Che si dice, Mandrolaccio? Perché Mandrolaccio? Stiamo entrando da una lunga giornata di stress, di fatiche. Vabbè, là. Si dice tanto per dire. Gianni, lo senti a dire, sì? Devi morire. E l'altro deve far la pace. Ciao Eugenio, buonasera. E allora, come sta amico mio? Riesco a malapena a decifrarti, proprio sei Santiago 1:30 in mezzo al QRM, non so come mi senti tu, comunque se stai andando a casa e accendi il fornellino, dai, comunque siamo qua, dai. Buonasera di nuovo. Ci fatti di domenica di vetti travaglienti, ciu. Dai raga, io per il momento mi allontano alla radio, se coincide ci sentiamo dopo, vado a farmi una doccia e poi intanto entro qua per vedermi la partita che c'è il Barcellona-Liverpool, me la voglio guardare, così mi rilascio un attimino. Dai. Buon proseguo a tutti, buona cena, buona digestione per chi ha già cenato. A frappè, riprendi Marco, guarda che te l'ho mandato il numero Gianni. Buono. Ciao Eugenio, Santiago 2, purtroppo non riesco a capirti quasi. Infatti non mi sente. Vai Tino. Vabbè, tanto adesso che sto andando a casa. Lo sentivo anche io, più, ma dovresti capirlo. Che devo tornare a casa. Ho capito che ho già lavorato, così è. Sì, infatti ci ha chiamato Mandronacci, per quel motivo lì. Va bene, nel mio caso ha più che ragione. Vabbè. Dice festa del lavoro, eh? Oggi mi riposo, perché gli altri giorni lasciamo perdere. Va bene. Beh Gianni, ti è arrivato il numero? K, sì, ho preso un post-it, me lo sto ricopiando, poi lo memorizzo nello scocciofono. Ehi, poi come primo messaggio puoi mandare qualsiasi cosa, insulti, parolacce, rutti, pornografia, tutto. Tranquillo, no problem, già è tutto nella norma. Qua accettiamo tutto, non si butta via niente. Praticamente già, io alla fine uso quasi sempre solo questo baracchino. Primo perché è omologato, quindi le emissioni sono già contenute. Il mic è quello originale, non è amplificato. In più c'è un filtro 5 celle dell'R-Metali, non si sa mai che possa mai uscire qualcosa che disturbi le TV, e quindi da 4 watt scendono a 3, si mangia un watt questo filtro, con Daniel 4 ne mangia uno. E vabbè, perché in passato vabbè, sono stati usati apparecchi un po' tipo Omega Force, uno scandalo, mi sentivano. Anche dei citofoni mi sentivano. Kappa, immagino, me l'avevi già accennata una cosa del genere, quindi va bene così. Poi le radio che stavi smanettando, con cui stavi smanettando l'altro giorno, le hai provate tutte? Sì, ma solo per accenderle, fare un giro, vedere se saliva la portante, le solite cose. Quindi ho provato l'Intec 5005, HR 5005, CRT 6009, CRT, ho perso pure il conto, no, ho sbagliato io. CRT 7009, 9009 e 5005, poi un altro è un tipo un superstar 3009 col frequenzimetro, lo stesso col frequenzimetro, però questo non è A. quelli omologati, quelli piccolini, 40 canali, quelli che escono cupi, non li ho nemmeno considerati, quelli ce li posso anche buttare, non valgono niente. Ciao, sono di nuovo qua. Ah, adesso Eugenio esce bene, mi, adesso lo sento. E a te anche al furgone esco bene, sono anche di salto un po' istante. Gianni Rubloffe. Ciao amico mio, ben sentito, ben ascoltato, e un saluto e un abbraccio da parte mia. Cettino, Marco, Claudio credo che sia andato a caricarsi, e niente, comunque, un salutone, dai, vieni avanti. Rientro io, dai un attimino che mi devo spostare alla radio. Ciao Claudio, Gianni, Marco, poi non so se c'è qualche domanda all'ascolto, nel caso vedo che fare, dai, mi devo montare un attimino. Ciao, ci sentiamo, ciao, buonasera anche a te. Perché sei calato il segnale, Gianni? Ah, non lo so, non ho fatto assolutamente nulla. Perché ti risulta una cosa del genere? Stai arrivando a Santiago qua 1,5, dai, neanche 2. Caspita, amico mio, non ho toccato niente, ho messo solo il rosmetro, il wattmetro, l'antenna è accordata, sta funzionando tutto perfettamente, gli altri non mi hanno dato responsi negativi, non lo so, non è stato fatto niente. Perché sei vicino agli altri, voglio essere lontano, me ne accorgo di più. Anche tu hai perfettamente ragione. Marco, intendo a me. Eugenio, non è stato fatto nient'altro di particolare, è stato messo solo lo strumentino per misurare vatte stazionarie e basta, nient'altro. Tu, strano. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo che farò la fase della luce, si rientra attraverso e sono ancora in Tirrenia. Dai, ci sentiamo dopo. Cappa, dai, ci aggiorniamo dopo. Avanti Marco. Eia, buona doccia, eia, bello di Tirrenia, praticamente sai di acqua salmastra, di gasolio, mi piace quel profumo, mi sa di viaggi in nave. L'aereo è banale, cioè decolla, sei già arrivato, quando sono andato a Milano. Sembra di essere in pullman, poi c'hai i sedili così vicini, i sedili davanti, ce l'hai abbastanza ravvicinati, ho detto ma qua non c'è spazio, sembra di essere in quel pullman dell'Ast. Oh, sui tram, il messaggio, forse il tuo. Sì, sì, è il mio. Arrivato, sì, sì. Ti ho mandato anche la foto della mia radiolina. Eia, eccolo. Riconosco già il TM999. Adesso l'ho scaricato, lo apro. E che marca è? Asai, roba giapponese sarà. Ah, io credo che avessi roba tipo Midland, cioè roba conosciuta all'occhio mi. E c'è anche lo Smitter grande, comunque sia. Oh, comunque funziona. Funziona, finché funziona. Poi, quando deciderai di pigliare un apparato, non lo so, vedi tu. Mi, se esca bene, io, per esempio io ho avuto il 140, ma con la mia voce non va bene. Non va bene il 140 con la mia voce, i K non vanno bene, non c'ho corde vocali, va bene con la voce di Claudio, di Tino, di Massimiliano, di Luigi, Vulcano, ma con la mia voce non va, non si adatta, per cui preferisco i baracchini, di lunga misura, ma questione di corde vocali. Adesso stavo sentendo anche il vocale. Questo baracchino l'ho smontato da un vecchio camper dismesso, forse te l'avevo già accennato tempo fa. Era dentro un camper dismesso insieme alla staffa con la sua antenna, qualche metro di cavo di quello vecchio che usavo, insomma, un po' di tempo fa, poi grazie a Claudio che mi ha fatto avere il cavo nuovo, ho procurato il cavo nuovo e quindi ho messo il cavo nuovo tutto intero con la boomerang e niente, quindi ho piazzato tutto. Adesso vabbè, Regione mi stava dicendo che che sono calato, parecchio di segnale, non riesco a capire perché, ma non penso, che lo strumentino mi stia rubando potenza. Allora, io avevo notato proprio col TM999 un calo di segnale quando inserivo la sezione accordante, cioè calavo in trasmissione. Qua il segnale è buono, però queste piccole differenze le vedi in distanza, è che qua lo smitter, cioè non siamo troppo vicini mi già. In distanza le vedi queste magagne. Sì, ricordo, mettendo la sezione accordante mi mangiava almeno mezzo Santiago, se non di più. Ma non credo sia il tuo caso, perché c'è un E1 già, non hai bisogno di accordare. Poi naturalmente una volta che uno vede che non ha stazionaria, è meglio mettere l'antenna diretta all'apparato e vai liscio. Ok. Non mi ricordo chi c'era rimasto qua, c'è ancora l'amico delle... non ho fissato i nominativi, scusate che stavo andando venendo. L'amico delle Excalibur, c'è ancora l'ascolto? Appena rientrato, spero che mi si ascolti. Ho smontato tutto il microfono, ho rifatto tutte le saldature, le master, tutte battute, cristallizzate, insomma, non so se è cambiato qualcosa. Allora, il segnale 925, la modulazione rispetto a prima, a meno non ha fischi, solo per una frazione di secondo si è sentito una specie di innesco, ma una frazione di secondo. La modulazione ha prevalentemente toni bassi, però è capibile. Gianni, cosa ti sembra? Sì, allora, vabbè, praticamente sì, quel piccolo innesco all'inizio, rispetto a prima, anche con quelle scariche là, rispetto a prima adesso la trovo più scatolata, il suono è più scatolato rispetto a prima. Non so se hai cambiato, se hai messo un altro microfono o hai riparato quello di prima. E comunque qualche piccola scarica, anche nel passaggio che hai fatto, l'ho sentita. Non so se Marco conferma, questo è il mio referto. Ma non saprei cosa dire, ho solo rifatto tutte le saldature, soffiato, non avevo un riattivante elettrico, se no qualche gocciolina l'avrei messa, ma i contatti di un microfono sono molto banali. Probabilmente mi procurerò un nuovo microfono, mi dispiace perché questo era quello originale marchiato Colt e la radio mi piaceva averla così originale, tenuta bene, sarebbe stato bello averla funzionante col suo microfono. Adesso io accendo il posto lineare se è possibile, giusto per provarlo, ecco, senza dare troppo fastidio. Una curiosità, ma stai muovendo il cavo dell'apparato, cavo microfonico, scusa, perché si è andato bene prima, poi nella fine del passaggio, come se muovessi il cavo, mi confermi? A dire il vero sto cercando di tenerlo immobile, guarda, ora è immobile, ora lo muovo un pochino, muovendo, ora di nuovo immobile. Ecco, ora si è andato bene, si sente appena di qualche piccolo soffio, come magari lo fa anche a me così, però niente di preoccupante. Comunque qua c'è un ottimo segnale, mi pare di aver capito. Giordano San Giuseppe, io sono zona Cinema Ariston, appena più su, viale Trento praticamente, e il segnale tuo è più che ottimo, poi sia abbastanza vicino. Volevi provare un amplificatore, K? Ora lo proverei. Allora, io adesso vado a un... aspetta che sento già ronzio. Oh, questo dovrebbe essere la bassa potenza, 40 watt. Prova. Qua, diciamo che la differenza è talmente poca, però credo che circa 9,30 l'hai raggiunto. D'altronde, se passi, che ne so, da 4-5 watt, già 40, sì, Santiago è salito, più o meno. Poi siamo talmente vicini che comunque la prova non fa testo. Vediamo se... no, cosa è andato a fare la doccia? Se no provavi, avresti potuto provare con Porto Torres, con Eugenio. Il controllo sarebbe stato un po' più veritiero. Ascolta, facciamo una cosa, io provo a attenuarti. Dimmi da liscio come stai uscendo. Prova a mettere i watt da liscio che ti attenuo, ecco. Allora, ora qua la lineare sento. prova, 1, 2, 3, prova, prova. Adesso lo accendo e mi indica 40, col selettore picchi positivi, col selettore a 40. Adesso lo porto al massimo e questo segna 120 sulla scala del wattometro del lineare. Caspita, da attenuato sei passato da 5 a 7,5, sembrava ben più di 40 i watt, caspita. Con 40 watt dovresti aumentare di un punto S e addirittura nell'ultimo passaggio ho 8,5, quindi da liscio 5, sempre attenuandoti, e attaccato tutto 8,5. C'è una differenza notevole. Naturalmente se metto la sensibilità massima del ricevitore qua varia, non varia, a parte che lo smitter per il tanto non sale, ha un limite questo smitter. Ma mi interessava sapere soltanto se funzionasse. Questo è un lineare avuto in regalo da dei ragazzi che lavoravano in un'assistenza nel Nord Sardegna, tanti anni fa avevano un punto di assistenza tipo Croce Azzurra, così usavano i CD per, con qualche canale sopra per le comunicazioni tra di loro, diciamo in epoca prima del 118, ecco, era una cosa molto più casalinga, e li avevano tutti ammucchiati lì, e poi è capitato di parlarne, dice ma c'è della roba da 30 anni ferma, e così è, ne sono entrato in possesso, ma era anche ben conservato, solo polveroso, e volevo solo vedere se accendendolo esce, ecco. Poi adesso non ho motivo certamente di uscire a 100 watt, al limite quando avrò questa radio un po' in ordine che non fischia e si troverà a fare qualche DX, qualcosa in banda laterale. Purtroppo ho comprato questo Excalibur SSD un po' alla cieca perché era tenuto bene e ho scoperto quando è arrivato che è bellissimo, ma è l'Excalibur 1200 con solo i 40 canali centrali. Speravo di aver preso, proprio preso al volo senza guardare cosa stavo comprando, il prezzo era buono, e invece non era l'Excalibur che ho avuto in passato con le bande, con i 200 canali. E niente, ho anche provato a vedere se si può modificare per ampliare la frequenza, ho postato qualche cosa su Roger K sul forum, ma mi danno delle modifiche parecchio complicate, bisogna ricercarlo e non ha senso manometterlo, ecco, ha senso comprare un altro al limite. Ah, ecco, su Roger K, sì. Che so, sai che scheda monti quell'apparato? Una, come si chiamavano quelle schede degli AM International, quelli dei Concorde, mi sfugge il nome, mannaggia. Gianni, riprendi tu che mentre faccio mente locale. Io continuo a dire che Gianni ha problemi, poi sono di nuovo rientrato. Ciao Eugenio, adesso facciamo una cosa, intanto c'è Alberto che sta provando praticamente un apparato con un piccolo finalino, guarda se gli puoi dare tu un referto, voleva più o meno sapere come magari gli arrivi tu a Polo Torres. Avanti Alberto. Allora esco liscio e poi lo accendo, ora 40, vediamo se Porto Torres si ascolta, non ho capito il nome del nominativo, e questo è con il doppio della potenza, vediamo se passo, avanti. Allora, da Santiago 1, da Santiago 47, radio 1, non si comprende nulla. Peccato, la radio 1 è la parte peggiore del discorso, cambio. Non ho capito cosa hai detto. No, io ho capito qua. Sai cosa mi aiuta Alberto? Questo apparato ha una ricezione con toni un po' acuti, no? Proprio all'altoparlante ha una dominante di toni acuti, per cui compensa i tuoi toni bassi, no? E caspita, da 1 a 7 sì, un po' si mangia la radio, è vero, però qua se ti attenuo si sente meno la saturazione, se ti metto a tutto fondo scala compare un po', ma questa è anche la saturazione del ricevitore, quindi del mio ricevitore del baracchino, quindi non fa testo, dai. Comunque caspita, da 1 a 7 ma quanti watt siamo? 1000, non sembrano nemmeno a 120 watt, mi pare troppo evidente l'escursione di segnale. No, no, tranquilli, se fossero 1000 direi che sono 1000, non ne ho problemi io. Il lineare questo è e questo segna lo strumento. L'antenna è bellina, l'antenna è un antennone in vetroresina abbastanza simpatico, stile Ringo ma in vetroresina, si trova su abbastanza, un'antenna che commercialmente si trova su Amazon sugli 80 euro, arriva dall'Inghilterra e mi piace molto perché resiste al vento, non ha bisogno di tiranti, quindi probabilmente rende bene l'antenna. Ecco. La potenza quella è, ripeto, se avessi un lineare da 1000 watt direi signori c'ho un lineare da 1000 watt. No, stavo guardando su Roger K le risposte che mi hanno dato su questa mia scheda, c'è un topic molto, hanno risposto persone molto qualificate, hanno identificato la scheda, ho postato le foto, ma poi alla fine le informazioni sono che bisogna mettere due quarti, uno per avere i canali sopra, uno sotto, e mettere un deviatore, non, il gioco non vale la candela, vorrei conservare la radio in tasca e al limite mi procurerò un apparato con le bande laterali, basterebbe anche un presidente Lincoln, giusto per provare a riparlare a distanza. Avanti. Stavo pensando che scheda può avere, perché sai, gli elaboratori che elaborano l'Alan 48 non hanno già kit di schede per fare almeno 120, se si può adattare qualcosa, non saprei, non riesco a ricordare il nome di quelle schede. Principalmente gli apparati di quei tempi erano due, una era la IPT, l'altra era la Cyberdyne, da un nome simile, però non riesco a ricordarmelo. Vai Lubrofè. Eia, datemi un controllo, ho staccato lo strumentino, adesso l'antenna è diretta alla radio, ditemi se è cambiato qualcosa, e niente, così vediamo un po' se è lo strumentino che mi sta rubando il segnale. A me lo richiede, non a loro, che sono a Sassari, sono vicini, a me lo richiede, ma lo vedi che è cambiato, si è aumentato il segnale. Kappa, adesso quanto è oggi? Adesso si è a 5 pieno. Ho staccato lo strumento, il rosmetro, e niente, e ho messo tutto come era prima. Allora vedi, c'era qualcosa che non andava, eri a 1,5, no, manco 2, adesso c'è a 5 pieno, va bene, anche la radio va meglio. Ok, grazie OG. Sicuramente gli altri non avranno notato nessuna modifica, ma adesso vediamo. Ma perché gli altri sono troppo vicini a te, capito? Non possono. Tu i controlli devi dare in distanza, capito? Concetto di distanza da te, non a Sassari, alla Sassari non ha alcun senso. No, ma anche qua confermo, segnale salito, preso un punto sullo smith. Hai perfettamente ragione, non sto contestando quello che dici, hai perfettamente ragione, vabbè, è giusto come pro forma. Apro parentesi, piccolo dettaglio, per Alberto, sembra, per come sento il suono, sembra praticamente che il problema risalga alla capsula, sembra che, perché prima praticamente è come se giri il microfono alla rovescia e praticamente parli alle spalle del microfono, questa è più o meno l'immagine che ti do, cioè sembra che sia un problema di capsula, capito? Perché hai fatto alcuni passaggi prima che erano molto chiari, prima di svanettare, adesso praticamente è come se parlassi con un albicocca in bocca a me. Mi fa venire il dubbio molto grosso di aver messo la capsula al contrario, mi aspetta di richiudere, lo sai che lo apro, magari lo dirà. Ecco, un attimo, ho trovato il nome, Cybernet, quegli apparati anni 80, tipo multimode, ma credo anche in quinto, usavano tutte schede Cybernet, oppure le PT 3006 subito dopo sono uscite, bisognerebbe sapere che scheda è, chiedere a un elaboratore addirittura si può mettere, una cosa ti volevo chiedere, ma quello che modi di emissione ha? Ha la M, l'SSB e l'FM ce l'ha? No, confermo, la Cybernet. Capitasse di leggere sul, ora in mercato, me l'ho sentito rientrare nelle casse del computer, se ti capitasse di leggere nel forum, mi hanno sviscerato il problema, mi hanno detto che è una Cybernet abbastanza datata, che non ha un, è molto selettiva, quindi anche ampliarlo farebbe cadere sensibilità e potenza. È il modello che non ha l'FM, LSB, AM, USB, quindi una delle prime Cybernet. Ecco, ah, quindi abbastanza adattata, ho capito, sì, poi sai perché c'erano, che ne so, il Multimode 3 che aveva 200 canali e aveva la Cybernet, però più avanzata, no, perché poi ne hanno fatti tanti modelli. L'EPT 3006 è rimasta tale, diciamo veniva limitata per i 40 canali, però alla fine sì, si è evoluta. Per esempio questa è una EPT 3006, la versione credo che siamo arrivati alla 15C o 15F, non mi ricordo, credo che sia l'ultima uscita peraltro, che è un po' simile ma non identica all'EPT 3006 degli anni 80, tipo Superstar 360, i primi Pluto e così eccetera eccetera. Bene, molto bene, vai Eugenio. Ma Alberto, da dove sta modulando? Che adesso è Santiago quasi uno, vabbè la radio non riesco neanche a sentirla, non riesco a capire, da dove sta modulando? Credo di aver capito, zona San Giuseppe, confermi Alberto? Sì, un attimo, microfono aperto, la diagnosi era giusta, me ne vergogno, ma capsula rovesciata. Oh, perfetto, lascia tutto così, che ora ti sento chiaro chiaro, il segnale è basso, ma la radio ci siete lì tira l'India. Dai, vergogna, grande vergogna, c'era la capsula al rovescio, quando, come l'ho chiuso l'ho messa ribaltata nella fretta. Adesso chiudo il microfono e poi riaccendo il lineare e proviamo di nuovo Porto Torres. Va bene, siamo qua. Lucrofe! Eia, quindi ho azzeccato la diagnosi. Sì, vabbè, sono contento, no, mi fa piacere aver risolto l'arcano e così si è trovata la soluzione. Sì, sembrava che stesse parlando dietro al microfono, perché cioè, prima era chiarissimo, poi di colpo è diventato assolutamente scatolato. Vabbè, abbiamo capito che lo strumento ci sta tirando un po', insomma, si stava succhiando un po' di energia e quindi visto che c'ho uno e uno di stazionaria lo tengo scollegato. Oh Gianni, ah, Gianni è il numero uno nel settore audio-video, cioè, si è accorto che la capsula era al contrario, fuori di gabbu, ottimo. E il bello è che se ne è accorto quello che non c'era davanti al microfono e quello che era davanti non se ne è accorto. Cante nella nota, giustissimo, fa troppo bene, cava di Niru. E poi ogni tanto te lo piatti e ti provi le stazionali, ma le olevi subito. Cappa, adesso è scollegato. Niente, quindi lo lascio così, ciccia. Adesso da ero un po' fuori forma, non pensavo che si ciucciasse tutto questo segnale, dai. Infatti, ti ripeto, non ho, adesso meno male che sei entrato tu e mi hai dato conferma, dai. Comunque va bene così, visto, in pochi minuti abbiamo risolto due problemi. È tutto perché la ZG usa componenti, mamma mia, cinesi, componenti di bassa, purtroppo è così, l'ho riscontrato, tante cose ZG, gli strumenti di misura erano pessimi, proprio più che pessimi. Uno Schmitter comprato nuovo di Trinca non misurava le stazionali, proprio non le segna, purtroppo non conviene nemmeno comprarne, meglio andare su Aiva. Daiva, scusa, Daiva, Diamond, roba un po', Bird, grasso che cola sarebbe. Lo so, ma lo strumento che ho mi è stato regalato, quindi non posso dire assolutamente nulla, quindi l'ho accettato e l'ho preso molto volentieri, quindi niente, adesso, visto che non ho praticamente le stazionali sono nella norma, lo lascio scollegato. Sì, tanto serve solo a misurare e poi lo puoi togliere, naturalmente poi se insorge un'anomalia in futuro, nei giorni a venire, magari il vento, che ne so, può spostare l'antenna, allora rimisuri e poi lo togli di nuovo. Quello lo puoi usare quando hai un'antenna recente, che sai che lascia l'antenna e i segnali non te ne dubba. non ho un antenino come c'è qui adesso. Comunque va bene, adesso Lucino tu cazzo che va troppo bene così. Eugenio, adesso c'ho la boomerang, praticamente sì, l'avevamo già fatto una, insomma, ci eravamo sentiti già con questa antenna, quindi vabbè, lo sapevi già che c'avevo questa antenna, quindi da quel giorno non è cambiato niente. Ho capito, per quello che ti ho detto, come mai si cambia il segnale, me ne sono accorto subito. Hai fatto bene a dirmelo, qua a strumentino del baracchino mi arrivi in off e quindi tu sei assolutamente perfetto e un figurone. Io faccio nulla attaccato, io l'apparato col filo direttamente all'antenna, io non mi attacco più già giuri, tanto non sembra nulla. Ok, capo, va benissimo, dai, abbiamo risolto dei problemi, amico mio, quindi hai visto, in giro di pochi minuti abbiamo risolto due situazioni, dai, bene, Meda, sono contento e ti ringrazio. Già lo so che è bello vedere tutto illuminato, tutte le lancette, già è bello, ma da quella fine, ti bronca. No, vabbè, chi chiudi non ti preoccupare. c'ha solo lo strumentino ad ago per misurare il rosmetro e il wattmetro. E niente, era curioso vederlo in funzione. Comunque, vabbè, adesso già rimane così, dai. Vediamo se Alberto ha risolto il problema. Ok, allora io dovrei essere operativo, questi sono i miei 40 watt col microfono chiuso e la capsula dritta. Vediamo se Eugenio mi ascolta meglio adesso. Alla grande Alberto, il russo, adesso sei a 3, Santiago 3, aggancia tutto, proprio per quanto sai. E questo è con il massimo, dai, 1, 2, 3, prova. Che strano, io invece ti ascolto basso, 1,5, 2, ho visto che gli altri qui ti sentono meglio, magari abbiamo una posizione reciproca non ottimale. Oh, adesso sei arrivato a 7, è probabile che io sono in zona negativa, cioè per te sono in zona negativa sicuramente. Eugenio. Oh, dimmi. Dai un controllino a me per favore, che poi ti faccio un altro passaggio, eh? Vai, fai un passaggio. Così com'è. Poi ti accendo un'altra radiolina, senza normale, eh. Adesso tu a me mi arrivi a 8, senti a 8, ok? Dai, ti trova l'altro. L'altro è questo, oggi, quello di poc'anzi, eh. Allora. Santiago quasi 7, modulato 7, dai. Caspita, allora anche questo, questi sono i suoi watt originali, fa da 7 a 10 watt originali, una stazione base vintage della Fayette, non so se tu la conosci, la Tesla SSB 140, vecchio stampo. Ma va benissimo, con questa qua modulati arrivi a 7, invece con l'altra era 8, a picchi positivi, dai. La radio è favolosa. Ti piace questa, Marco? Questo è modello vintage, eh? Eia, hai detto Tesla, che lo voglio vedere in figura. Tesla com'è? SSD 140, dalla Fayette. Scusate, riprendo e tengo un attimino, spero di non sovramodulare. Visto che di prove si tratta e vi trovo tutti disponibili, sono molto contento di questo. Qualcuno, anche spostandoci di canale, mi fa provare la banda laterale di questa radio? Io scegli un canale, facciamo l'1, canale 1, così non pigliamo splatter. Va bene, canale 1 LSB, canale 1 LSB. Ragazzi, dai, io vi saluto. A domani che vado a fare il problema del mandibolo, là. Ci sentiamo domani, ciao a tutti. Ciao amico mio, un abbraccio, buona cena, buona carica. Dai, alle prossime, un saluto e buona serata. Anche da parte di Alberto, aspetta che accendo, ciao Eugenio, un saluto, buona serata. Io vado sul canale 1. Ciao Alberto, l'amico mio, il profeta, chi c'era? Tino, Marco, il super. amico mio che mi ha reso felice dandomi la radio per il camper e tutte cose, e tutte cose assieme. So, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Buona fine serata, buon inizio mattinata per domani. Buon trucco, ok, avanti. E gli altri stanno andando, sono andati a smanettare sul canale 1, T. Ah, no, capo, dai. Va bene, va bene. No, non ho voglia di... Vabbè, tanto se c'è già Marco, già si sa arrangiare. Sto guardando su internet questa radio che stai testando, questa Lafayette SSB 140, giusto? Sì, c'è scritto Telsat, Telsat, tutto attaccato, SSB 140. Oh, è bella anche vederci, la colonnina frontale, una bella recensione, caspita, poi al modulometro, il SWR, insomma, questa è anche la modifica in come si dice, in FM, hanno fatto una modifica FM, quindi fa AM, FM, USB e LSB, se no in origine è solo AM, USB e LSB. Sì, sì, la sto vedendo adesso, doppio strumento, l'altoparlante sulla sinistra, ci sono 6 tasti neri, adesso vabbè, non l'ho aperta del tutto, non so, vabbè, quelle sono commutazioni varie. Sulla destra la manopola grande con 2 manopole a fianco e il contattore dei canali. No, è la copertura finto legno, mi sembra, no? O roba adesiva? No, è roba adesiva, perché la struttura è in lamiera, ha solo 2 pezzettini in legno laterali, ma piccoli piccoli, quelli che sono frontali, è giusto per richiudere un po' il tutto, credo, e poi il resto è in lamiera. No, una brava radio, e poi è una bella recensione soprattutto. No, è simpatica. Ricorda molto gli anni passati e insomma le strumentazioni di un tempo, cosa che a me piace particolarmente, quindi va benissimo. Sì, sì, è un bel apparecchio, carino, esteticamente molto carino. Adesso sto cercando di vederlo praticamente, ci sono delle fotografie con varie definizioni su internet, sto cercando di vederlo con una definizione migliore. Adesso vabbè, mi ha fatto entrare in un sito, però non abbia la fotografia. Ah, ecco, la sto vedendo adesso. Adesso riesco a leggere anche cosa c'è scritto nei pulsanti. Bene. No, è una bella radio, carina. Vintage proprio come deve essere. Sì, ma tu pensa che questa è in origine già, a quanto mi hanno detto, e poi vabbè, io vedo anche lo strumento, nasce con 7 watt, quindi modulati, quando io modulo in base alla mia tonalità va a toccare anche i 10 watt, quindi già è una radio abbastanza spinta in confronto agli anni che furono. Ho capito. No, è comunque un bel giocattolino, sì, fa la sua figura, come si dice. Oh, Tino, l'ho trovato, Allora, ho dato il controllo all'amico sull'1, persino più bella è mandata la modulazione. Ho trovato questo Telsat, ma questo è un pannello, non è una radio, è un mobile, è bellissimo. Della Lafayette, quello che ha la colonnina sulla sinistra? Sì, sì, poi vedo 2 strumenti, al centro degli strumenti credo delle spie, perché qua non mi mette a fuoco, e poi sotto gli strumenti dei pulsanti neri e poi le manopole cromate, bello, questo è proprio anni 70, bello, e quelli vanno tenuti conto, perché non ne trovi più, soprattutto tenuti bene, perché certi li vengono semi distrutti, volti da sottoterra, io non sto scherzando, su eBay c'è uno che stava vendendo un baracchinetto piccolo, vabbè, ho tolto la sottoterra con ancora la terra sullo sassile, tutto arrugginito, proprio tolto dalle tombe, non so se mi spiego. No, questa, allora, per chiarire, io lo sto testando, più che non è roba mia, quindi questa è una radio che mi hanno dato così a provare, a testare, a usarla senza nessun limite, però da chiarire che non è roba mia. Mentre invece se hai la pazienza di cercare il SEAT SB, quello è una radio invece che mi hanno regalato, sempre un muletto degli anni, credo 60-70, 23 canali, molto bello stesso, e poi nasce con 4 watt modulati, non li ho mai testati, ma credo che superi i 5 watt, non di tanto, però hanno quella caratteristica lì che partivano magari un po' bassi, poi quando tu parlavi la timbrica della modulazione tendeva a abbassare anche le luci e magari spingeva un pochino i watt. Il serial è molto bello stesso, è una sorta di veicolare, però immaginatelo al doppio più grande, ecco, del veicolare classico. Eia, poi sto notando ci sono foto, anche vari video di quello del Telsat, fa vedere anche come dentro, dopo mi li guardo con calma quei video. Vai Rubrofè. Eia. No, su eBay ho visto che se ne trovano tante, compreso la radio che stava usando Alberto, il Colt Excalibur, vabbè, i Galaxy Saturn, tutte quelle radio da rack, formato rack, che trovo molto, molto belle, come la radio stupenda che c'ha Claudio, in alluminio spazzolato, bellissima, proprio sono le cose che piacciono a me, che misure da rack 45-43 cm, le classiche misure, insomma, roba seria, già se ne trova, dai, ancora di quella roba lì. Diga, bisogna prenderle da qualche amatore, perché magari se le fa pagare di più, ma le tiene come reliquie. Allora, poi sto vedendo il Sears SSB, sì, sembra tipo veicolare, addirittura c'è ancora la manopola rotativa con la lucina che illumina il numero del canale. Eia. E pensare che io qualcosa avevo all'epoca, ma ho tutto venduto, tutto, non ce li trattavo come caccami, i baracchini pre-48, i famosi Midland 150M e simili, io li trattavo come cacca, tutti svenduti per 50.000 lire, scemo io, invece erano da tenere quelli. Poi ti stavo spiegando a Gianni, no? Quando volessi ampliare la stazione, che io non ero soddisfatto del tappa, perché con la mia voce c'è poco da fare, non si adatta, non c'ho corde vocali, non c'ho palle per quell'apparato. Ho detto, quell'apparato va bene con voci come quelle di Claudio, Massimiliano, Tino, Luigi Vulcano, ma con la mia voce non va bene, ci vuole poco da fare. Vabbè, no, sì, si porta a timbri che un pochino aggressivi, diciamo, perché se no hai una bella radio, una radio, però non sviluppa come dovrebbe sviluppare. Anche io ho sentito molta gente che ce l'ha e effettivamente non rende come dovrebbe rendere. Per dire, ho conosciuto e conosco dei radioamatori che ce l'hanno, hanno anche radio molto più superiori al 430, al 440, al 140, al 9, insomma, però non rendono come dovrebbero rendere a causa proprio di questo fatto qua. E vabbè, è un dato di fatto. Chi era? Non mi ricordo più, ricordano un amico che stava facendo la prova? Alberto. Ma ha chiuso Alberto? No, allora siamo passati sull'1, ho provato l'SSB, andava a meraviglia, però gli è squillato il telefono, ha detto che forse rientrava dopo qui. Ok, scusate, devo andare in bagno, me la sto facendo addosso. A dopo. Eccomi. Ah, ok, ok, dai. Vabbè, no, io questo qua per dire la verità non ho mai avuto l'occasione di provarlo in banda. Vabbè, però non volevo lasciare da solo a Gianni, quindi non mi sono spostato. Perché anche questo ha le bande, però non l'ho mai tutto provato. Beh, vabbè, cosa vuol dire? Cioè, visto che c'era la possibilità, le prove si fanno, non ci sono problemi. Ma non c'è fretta già, figurati. Guarda, sono 3 giorni aspettando un amico sul 20 per fare determinate prove, quindi ho tanta pazienza, non ti preoccupare. Quindi adesso stai usando Lafayette, giusto? Sì, sì, sto usando Lafayette con in accoppiata con un più 4, non l'ho provato con più 5, non so se va bene, ma credo di sì. Con un'amplificazione, credo, intorno ai 6-7, e niente di più. Sì, sì, la preferisco nettamente a quello che usi di solito, te l'ho già detto anche l'altro giorno, vabbè. A mio orecchio preferisco nettamente questa. Sicuramente quell'altro apparato ha qualche problema, perché la radio, il suono risulta, per me personalmente risulta farinoso, non è assolutamente limpido, chiaro. Questa invece è tutt'altra cosa, come ti ho già detto l'altro giorno. Per dirti un punto di riferimento, per dire, Marcolino adesso sta usando il Palmare con il 3009, ha un suono perfetto, cioè proprio considerando che non ha processori e roba del genere, quindi più o meno ti metto allo stesso livello. Io parlo come suono, come suono di apparato, ti paragono al suono della radio di Marco, quindi, mentre l'altro risulta farinosa e non è assolutamente chiara. Ok, allora ti utilizzo questa, così non facciamo un impatto. Sicuramente in quella radio là, quell'umidità nel corso del tempo sicuramente ha combinato qualcosa, perché non, ti ripeto, questa è la mia opinione, perché non, rispetto anche al suono del 48, che lo stesso è chiaro e limpido, è tutta un'altra cosa, il suono praticamente ha una sonorità sporca rispetto alle altre, capito? Ho capito, ma già, scusa, va bene, no, questo ogni tanto io mi piace usare, inutile, sono di quell'era, quindi. Questo è il presidente con il più 5, giusto? No, questo è un altro apparato ancora, però sempre con un più 5. Si sente la differenza del microfono. Personalmente preferisco altro. Vabbè, lo so che ti piace, ma dovresti un attimo sentire. Vediamo se riesco a attaccare il microfono. Col più 4 potrò sentire. E mi dici se ti piace anche l'altra modulazione. Aspetta. Più rumore, capito? Quindi forse anche per quello. Avete parlato in due, però. No, dicevo che si sente molto, molto, quasi troppo rimbomba nella stanza, quello incide un po'. Non per la timbrica, per l'effetto stanza. Sì, sì, lo so, ma aspetti, vabbè, questo è un microfono che era così molto non detto. Aspetta che ti commuto con l'altro, attimino. Dovrei esserci, ci sono. Vai. Pensavo che non stavo uscendo, perché ultimamente ho fatto degli spostamenti di antenna. Com'è questa? Guarda, per il mio orecchio non allenato, sono buone tutte, sembrano simili tutte. Forse Gianni c'ha più l'orecchio. Andrebbero ascoltate in cuffia, magari, per percepire proprio le differenze. Vabbè, questo è, ti ripeto, sto usando lo stesso microfono, quindi magari dalla Lafayette al SEAT poco cambia, poco cambia. E magari questo qua ha un livello un pochino più basso, però la radio è sempre vintage. Sì, sì, sì. Buona, buona, magari, vabbè, per i miei gusti avrei diminuito l'amplificazione per non sentire il rimbombo, tutto lì, perché alla fine confonde un po' la modulazione, dai. Ma questi sono gusti personali. Infatti, come stavo dicendo, adesso con questi ultimi passaggi, forse sono con un altro microfono, chiaramente si sente molto più rumore d'ambiente, si sente che è molto più tirata l'amplificazione rispetto a quella di prima. Infatti, come gli ho detto poc'anzi, lo ripeto, io personalmente preferisco la modulazione, cioè la radio, il suono di prima rispetto a questo. Vabbè, guarda che non ho toccato niente, il microfono è sempre stato così, magari cambia un pochino la radio. Adesso sono ritornato indietro. Capa, si sente, no, anche per dirla a Marco. Infatti, no, l'altro che stavo utilizzando 5 secondi fa era stessa data, diciamo, di quest'altro, che però è il Seat. Marcolì, cosa gradisci di più? Questo o quello di prima? Io quello con meno effetto stampa possibile, praticamente. Quando a Tino ho detto questa è meravigliosa, che qual era T? Che accoppiata era? Cuocuovari! questa la Fayette con il Q4. Poi naturalmente ciao Lu, ben entrato. Questo apparecchio riceve con toni un po' alti, quindi influisce anche quello, cioè con un altoparlante professionale magari suona diverso, se capi? Vai Luca. Allora, ciao Marco, ciao Tino, non so che ci sia altro, avanti, riprendi il Tino. Vabbè, Lugariello, tutto bene? È appena rientrato a casa, tutto bene, no, là, così, mi sono influenzato, ma di gola di nuovo, raffreddore, non ho più anticorpi, zero assoluto, avanti. Vieni che ti do la medicina. va bene, comunque, buona radio Luca, va bene così, stai sempre andando bene, non preoccupare. Anche per te, tutto Roger, anche per Marco, l'altro non so chi è, avanti, chi era l'altro? Ciao Luca, ben ascoltato, buonasera, Gianni Lubrofetta da Sassari Centro Storico. Ciao Gianni, saluto anche a te, anche tu arrivi benissimo. Vabbè, Tino è più distante, invece io, tu e Marcolino siamo vicini, dai. Tutto bene, va bene, avanti. Più o meno mi puoi dire in che zona ti trovi? Cadete in Canada, via Marghinotti, dai. Quindi siamo abbastanza vicini. Bene, anche tu arrivi bello forte, radio squillante, perfetta. Questo è un, diciamo, gli accoppiati, un microfono MB+4 modificato, che ha anche i suoi anni. C'è la scheda che c'è all'interno, era messa in un altro microfono, poi me ne hanno regalato uno, MB+4 nuovo, e ho messo questa scheda vecchia, modificata, e poi c'ho come baracchino il Typhoon. Già va bene, dai, non mi posso lamentare. Bene, sì, te l'ho detto, segnale ottimo e radio perfetta. Ben sentita ancora, e facciamo entrare a Marco, dai. No, fate, sto guardando un po' di roba vintage. Sto vedendo apparati, a parte che sono enormi, mai visti, ma c'è un Royce Puget Sound 11, una cosa immensa, tre Smith a ventaglio, manopole non le conto nemmeno quante ne ha, c'è un po' di roba che in Italia non arriva, perché è tutta roba americana questa, caspita. Marcoli, ma queste cose poi, sì, sono belle, però è un casino, io c'ho questo qua come baracchino, poi ne ho altri, allora c'ho due baracchini vecchi, adesso non mi ricordo il modello, praticamente lo stavo usando un giorno, ma per sbaglio così, col piede, ho agganciato il capo, è caduto in terra, non si sente, non trasmette, non so cosa ne abbia preso, e di quelli vecchi, adesso non mi ricordo il modello, domani li prendo per vedere, siccome chi parla parlo di qualche anno passato, quando l'avevo aperto, ma non ero molto esperto. Ci vorrei riprovare a vedere se riesco a farlo partire. E magari qualche saldatura un po' si è salzata, sai, le saldature fredde. Boh, da vedere. Tutto da vedere. Dovresti darlo chi ha un po' di competenza e metterlo in sesto, sempre che valga la pena. Perché a Gianni io avevo la mania dei baracchini, sempre comparendo i baracchini, tutti i soldi buttati, tutti ammassati lì nell'armadio, non mi ho buttato nulla. Però prima di buttarli, sai cosa faccio? Li tolgo il coperchio o l'altro componente, lo metto al microonde, gli faccio saltare tutti i componenti e poi li butto. Così non se li rivendono, capito? Che brutto che sei, ma perché tratti male queste cose, Marco? Sì, ma poi sai cos'è? I baracchini che io sono tutti Modena, tutti SMD, non sono cose belle tipo quelle che usi tu, no, quelli sono anche storici, quelli sono parecchi, quelli sono baracchinetti, sì, 200 euro l'uno, la media del prezzo, ma l'uno vale l'altro, ma sono tutti uguali, tutti con le stesse funzioni, tutti con l'eco, con lo stesso beep. Guarda che sto parlando, sono tre modelli, l'aspetto è diverso ma le funzioni sono identiche, sembra lo stesso apparato con tre forme diverse. E ti sto parlando del HR5005. Ceretti 7009 e Ceretti 9009 hanno le stesse identiche funzioni, stesso menu. Alla fine è come comprare tre baracchini uguali, cosa cambia? Un po' la forma, e capirai. Tino, ma stai uscendo con quella radio che uscivi, che ti dicevo che eri cupo, quella è? No, questa è una vintage, una Lafayette Telsat SSB 140. Anni 60, 70 credo, molto bella, stazione bassa. Marco, se te ne vuoi far fuori uno, me lo fai vedere, qualche uno te lo prendo, 9000, cosa metto, 9000? Allora, il CRT 7009, c'è una SS che sta per Superstar, no? Sono in SMD, i soliti 400 e più canali, AMFM, SSB, il 7009 a 30 watt, il 9009 più piccolo ma è più terrioso, c'ha 60 watt in FM e in SSB circa. Però io continuo a preferire il vecchio caro 3009, bello cromato, niente microprocessori, niente menu, c'è le manopole, fai tutto da lì, capito? Ah no, ma qual è? Quello è piccolino però il 9009, vero? Allora sì, il CRT 9009 è un po' più piccolo, no? È compatto anche un apparato. E lo stesso c'è 400 canale, MFM banda laterale, l'eco disinseribile, dip inseribile, configurabile, il menu con varie voci, l'autoascolto. Ma cos'altro c'ha? Le solite menate che c'hanno tutti adesso. Sì, funziona, ma non mi ispirano a me questi apparati nuovi, li ho presi per capriccio, ma fisso li buttati, vabbè. Comunque se lo vuoi vedere provare, già te lo faccio avere. Ok, quello è bocciato, dammene un altro, perché 9009 è effettivamente, scusate, più buono, però non mi sa di, sì, magari va più volte, però non mi sa di cosa consistente. L'altro cos'era invece? Allora, il CRT 7009 sembra uno Iaesu, sembra una Iaesu Bipanda, no? Ha le dimensioni di un 3009, ha i tasti bianchi, sì, sembra un Bipanda VHF, però c'ha meno watt, esce meno forte di radio, l'altro c'ha dei picchi notevoli, però il 7009 guarda che ha l'attacco RJ45 per il microfono, non ha l'attacco a ghiera, ha il cavo telefonico, cioè, come attacco microfono, purtroppo li fanno così, non capisco il perché di questa scelta, l'hanno fatto così. Ok, bocciato anche quello, il terzo e l'ultimo cos'è? E sarà bocciato anche quello. Allora, guarda, cerca su internet Intec HR5500 alias KPO MAS 5000DX alias CRT 6009 con la 6, col 6 alias, guarda quel modello, anche la Kenwood l'ha rimarcato quel modello lì, l'ha marcato Kenwood. Aspetta, mi hai detto un bel, ma io non è che sono un bel veloce, mi hai detto Intec, alias? No, no, scrivi solo Intec HR5500. Allora provo, vediamo un attimino se è quello che sto dicendo io. Blu. No, forse 500. Ho fatto sbagliato. Intec HR5500, giusto? Sì, sì, 5500. Ah, questo è... lascia vedere. Dove l'hanno fatto, porca miseria? Vediamo un video, lo devo guardare. Comunque guarda, è lo stesso apparato, tutti in SMD, micro componenti, micro trimmer, sì, magari escono bene, quello che vuoi, ma io di gran lunga sono fedele alla vecchia guardia, quei trimmeroni, ah, di chi sì, no, alla cieca li puoi girare quelli. Quei componenti grandi, se si rompe una resistenza riesci a cambiarla, lì non vedi nulla, non vedi nulla. Sono quelli considerati digitali, no? Col display LCD, possono piacere e non piacere. Scommetto che Gianni è più per il classico, vero Lubrofè? Sì, sì, condivido e rimarco anch'io, come stavo dicendo prima, tipo l'apparato base in alluminio spazzolato, preferisco, è anche come il tuo 3009, preferisco di gran lunga quelli. Lo so che sono più macchinosi, però effettivamente, come diceva l'ingegnere Taglioni, adesso non mi ricordo, della Guzzi e della Ducati, meno cosa c'è, meno cosa si rompe, quindi lì è tutta un'altra pasta. Sì, questo qua l'ho visto, ma questo non è bruttino, cioè, è brutto dire non è bruttino. Non è male, ecco, non è male, io sto cercando più che altro vecchia guardia, un brutto, un similare, quindi questo credo che sia una cosa quasi uguale. Eia, ah, pensa che questo HR5005 alias CRT6009, poi c'ha 12 nomi diversi, perché ha avuto un successone, no? L'hanno chiamata addirittura l'erede del Pluto, però frena, io ho detto frena, Pluto è un'altra gubba, quello sì, funziona, esce bene in radio, però non lo so, c'è qualcosa, poi l'aspetto anche troppo, questi display LCD, mamma mia, con questi smitter LCD poi, che non sai se è Santiago 9 o 9.30, che senso ha, vabbè. Lo so. Luca, sì. Ehi, Aria, vabbè, voi stai parlando di radio vecchie. Sì, comunque c'è molto bene, ti. Molto, molto bene, forte, pulita, bella, bella radio. Vabbè, io, sai cos'è, prima il tempo ce l'avevo per modulare, adesso là ne ho staccato tutto, che poi non è che mi sentiva poca gente. Qua vengo, sono qua perché è presto, sennò io alle 9:30 arrivo a casa più o meno, faccio la puntura con la Mitsigoku. Tempo non ne ho più, ma vabbè, se ogni tanto diciamo, faccio, entro le chiacchiere così, davanti Gianni. Aspetta, a proposito di puntura, mi devo preparare la pera, arrivo subito. Vi ha ricordato qualcosa? Vai avanti Gianni, vai, perché sennò rimaniamo troppo molto su questo argomento. Ma diabetico, perché Marco? Sì, io, la radio, l'ultima radio che ha citato Marco l'ho vista, insomma, qualche giorno fa anche io su internet, perché così mi stavo dilettando a curiosare per capire più o meno a grandi linee cosa c'è di carino e di insomma con un buon rapporto qualità prezzo, però giustamente come dice Marco e io approvo, meglio riuscire a recuperare roba tra virgolette, chiamiamola analogica, dai, che è molto più da battaglia, molto più, secondo me anche più facile da riparare. Poi vabbè, i classici, i classici sono sempre, tra virgolette, duri a morire, quindi parlo anche di ricambi, di assistenza e di accessori vari, si recupera sempre parecchia roba, mentre magari capita la radio, sì, che fa faville, però magari dopo pochissimo tempo non si raggaga più nessuno e quindi sparisce e non se ne sa più niente. E quindi sono del parere, come stava dicendo Marco, di un certo tipo di radio, quindi mi trovo pienamente d'accordo. Avanti ti. Sì. Non sono proprio d'accordo, perché effettivamente credo che questa tipologia di radio che sta uscendo ora, come ha citato Marco, quest'Inter che è a terra 5005, ha fatto faville, sì, perché come ha detto lui è una sorta di Pluto, anche se non lo è, attenzione, però del Pluto non è tutto che trovi, perché io le sto cercando di ricomporre uno che frontalmente la vetrina, però magari mancano dei pomelli, le manca qualche cosina dall'interno, insomma devi cercare di scavare per poter trovare qualcosa di suo personale, parlo, perché sennò poi se ci mettiamo ad adattare lascia perdere, trovi il tutto, basta che vai su Google, trovi schede, ecco, un attore, ma le varie, quello le trovi a occhi chiusi, però se lo vuoi fare proprio suo senza cambiare una virgola ti viene un pochino difficile, perché essendo adattata la radio, insomma, non è che trovi tutto del tutto, comunque ci stiamo provando, adesso vediamo. E sono così per farlo originale, adesso vediamo se come mi gira, ecco. Kappa. Sì, insomma. Non che le cose nuove siano brutte, però giustamente siamo noi che facciamo delle scelte, quindi personalmente ognuno di noi poi fa la sua, e quindi a parte l'estetica e il gusto, insomma, anche un certo tipo di tecnologia, diciamo che anche quella rientra nel gusto, dai, cioè mettiamola così, dai, in parole povere, per carità, poi ci sono dei signori apparecchi assolutamente come si dice, impeccabili, di nuova generazione, infatti non si discute quello, il discorso è la passione rispetto a praticamente a un certo tipo di apparecchio e di un momento storico, capito? A me quelle radio così mi ricordano molto gli impianti hi-fi, i vecchi impianti hi-fi che erano uno spettacolo dentro il mobile, vedere tutti accesi, poi sono venuti fuori quei cuboni con tutti quei led plasticoni, una bucaria, cioè, quindi se dovessi scegliere preferisco un bel mobile con un bel impianto hi-fi dentro piuttosto che quelle cose di plastica assolutamente orribili. A me su quello mi trovi d'accordo, perché vabbè, noi abbiamo passato, ne stavamo parlando sul sbaglio ieri, dell'era che sta avvenendo, insomma, sì, anche io ho conosciuto i vecchi impianti hi-fi che erano una bomba, poi sai, te lo facevi come quando allora c'era la perla nera che ti facevi la scritta componenti, te li mettevi tu come volevi tu, e poi è vero, sono usciti i cubi che, come hai detto tu, sono tutta plastica, super aerodinamici, super modificati, però era tutta un'altra storia, quello è vero. Sì, è così, è vero. Adesso mi hai riportato un po' indietro nel tempo, guardandolo bene, avevo proprio quella figura dell'impianto hi-fi chiuso nell'armadio, che magari non utilizzavi spesso, ma quando lo utilizzavi sapevi cosa stavi ad operare e cosa stavi ascoltando, un'altra definizione di musica. Bene. No, vabbè, io ce l'ho contributo questo, perché vederne tanti come ho visto io e come credo che magari, non so se siete scesi voi dove sto dicendo io, vederne tanti e vederli lì non buttati, conservati negli scaffali senza farli andare, mi è sembrato un po' così, un po' crudele. E allora niente, sto facendo girare e mi piace avere, così vi posso dire, l'ho avuta, non è mia, però l'ho avuta. Capito? Certo. Sì, è così, vabbè. Ti ripeto, determinate cose hanno un loro fascino e altre no. Adesso vediamo cosa ne pensa Luca. Avanti Luca. Guarda, a me le radio vecchie non piacciono, eppure escono bene. Io ormai sono, diciamo, mi piacciono di più questi baracchini moderni, ecco. Ma questo qua è i suoi anni, io c'ho, non so se lo conosci, il Typhoon, non il Typhoon 2, quello normale. E va benissimo un baracchino. A me, io ho una radio vecchia lo stesso. Infatti ho fatto il cambio, ho fatto questa radio vecchia d'epoca, che era tutta in legno, ma la regata fatta, no? Tutta sistemata, è uscita nuova di pacca. Anche un po' mi aveva aiutato Claudio a rivecciare il tap. Comunque è uscita nuova, ho dato una radio lì, bella, e tu devi vedere, con tre strumenti, era bellissima la radio, non mi ricordo la marca, un Royce, ma tu vedete proprio la vetrina. Infatti quando l'ho visto Roberto Quadrato, facciamo il cambio, e infatti abbiamo fatto il cambio, adesso ce l'ha ancora. Ti blocco un attimino, trovavo io fino a due giorni fa Luca il Royce con la prestomagnete verdi, però a quanto mi hanno detto dall'altra parte della radio questa esce molto migliore. Ma questa esce bene, adesso non mi ricordo se usciva bene quella là, comunque Roberto la voleva la vetrina, ma è uscita fiammante, nuova, proprio nuova di pacca. Vabbè, non sono radio, poi per nome di spazio, invece questi qua, i veicolari vanno benissimo, l'ho messo qua attaccato di fianco al comodino, che se ne frega. Ma vabbè, questi, devo avere spazio, ti dai, una camera tua dove puoi fare, insomma, uno di piano e mettere le radio. Va bene. Sì, l'ho avuto due giorni fa, infatti ho portato indietro quello per prendermi questo. Sempre a prova, sì, bella radio, senza ombra di dubbio. Non ho potuto provarla in banda perché avevo dei problemi, però usciva molto bene stesso, sempre con un più 4, niente di che. Cioè, sempre provare altri tipi di microfono, se era fatta bene a questo. E questo è lo stesso, questo sto usando un MV4 e basta. Manda la foto di quella su WhatsApp. Ehi, aspetta, prendo. Non ricordo che l'avevo messo sul telefono. Vabbè, forse in cucina. Sono curioso. Allora, ma Marco, ci sei? Ehi, mi sono mosso. Stavo cercando le foto di quegli altri apparati, ma non. Avevo fatto tabula rasa con l'altro smartphone vecchio. Avevo cancellato gran parte della roba, non cancellato, salvata su hard disk per non perderla. E qua però l'ho tolta, non c'ho nulla, vabbè, pazienza. Diabetico sei, Marco, no? Come Luca? Ho detto diabetico sei, no? No, però è una pennetta simile, è un autoiniettore, o come lo vuoi chiamare, per somministrare somatotropina, che è l'ormone della crescita. Perché? Perché quando ho avuto quel tumore all'ipofisi, si è sbilanciato, è tutto concatenato, si è sbilanciata la tiroide, le surrenali, anche il testosterone proprio dei testicoli, detto, capito, è mancato anche lì, e quindi questa somatotropina è prodotta, credo, dalle surrenali, non lo so, e ogni giorno devo fare una piccola iniezione, ma gli aghi sono ridicoli, lui non senti nulla, non senti nulla. Se vuoi ti mando la foto della pennetta, mi. Ah, io lo so, è come quella dell'insulina, la pennetta è uguale, l'ago è proprio piccolo. A me gli aghi fanno impressione, ma quello lì faccio l'insulina a mamma, non mi crea problemi, sono sincero. Ma se mi dà un ago più grande, tipo quella l'insulina, quella che si usava prima, non ci riuscirei, mamma, mi viene uno zoom, mi viene, no? Invece con queste qua sono, ripeto, non mi fanno, non mi fanno niente, perché io sono molto, non sono coraggioso, mi... vabbè, dai, però mia madre ultimamente sta sgarrando, andava benissimo di glicemia, era perfetta, adesso lì vuole mangiare come vuole lei, poi la glicemia male, lei ce l'ha un po' altina e dice che non ha mangiato niente, sono bugiardi diabetici, sono bugiardi. Sì, poi peraltro non era obbligatoria la cura, era una cosa che se la volevo fare almeno arrotondavo i valori delle analisi, mi. Però per il resto fra un mese e mezzo ho finito, non la devo più fare, credo. Ehi, è tutto concatenato lì, come parte un ormone sbilancia tutto l'organismo, è una rottura, e meno male mi è andata bene pure me. Vabbè, non avreste perso nulla comunque. Beh, ti credo, vabbè, là. Interessante che tutto a posto. Io devo fare sempre un'operazione famosa, solo che, come si dice, quando sono andato per il ricovero, ero influenzato e mi hanno mandato via. Sono già 4 anni, mi pare, a Pesaetti. Devo fare un vostro intervento perché ogni tanto si mettono in moto questi calcoli e fanno i calcoli proprio. Vabbè, dai, speriamo bene, devo trovare un attimo che sto proprio bene, non devo avere nessun tipo di né mal di gola né raffreddore, devo essere pulito, così mi faccio l'operazione. Ehi, ma poi una cosa, endoscopia, mi fanno un forellino, entrano nella cestifella e aspirano i calcoli. Da me sono passati dal naso per arrivare al cervello, se no avrebbero dovuto aprire il cranio, sarebbe stata molto più pericoloso, molto più lunga la degenza, molti più rischi post-operatori e... Non l'hai fatto qua? No, qua primo non ne fanno, l'hanno detto, non hanno i mezzi e non hanno la preparazione, a Milano, all'Humanitas, e quella è una cosa, potevo andare in coma, e io, c'era un capillarino dell'occhio, no, c'era un occhio mezzo oscurato, ho detto, c'era un capillarino, i vegani, c'avevo una susina nella testa, una susina, lo sai, mi è andata anche bene, dai. Vabbè, là, sei qui a raccontarlo, vabbè, come posso immaginare, che bel casino, bel casino, e vabbè, là, avanti Gianni, a Severettino si è mandato la foto. Sì, sono andato. Insomma, come stava dicendo Luca, meglio sicuramente poter raccontare certe cose, quindi poi come si dice, sono cose solo che ognuno che le passa e le attraversa può cercare di descrivere agli altri, quindi tra virgolette capisco cosa si può provare. Ritornando a noi, Marcolino voleva sapere il nome della mia radio, dovrebbe essere una Sashi ACT 4023, roba giapponese anni 70 comunque. Sì, l'ho letto, però non la conoscevo minimamente. Sappiate che i giapponesi erano e sono tuttora, credo, messi molto ma molto più male di noi. Allora, le radio CB in Giappone hanno solo 8 canali e 500 milliwatt di potenza e devono usare antenne incorporate, praticamente come dei PMR. Sì, hanno delle forme particolari, un giorno ve le farò vedere, però sono messi male, cioè non possono usare antenne esterne sul tetto, e loro si fanno i DX si mettono un tavolino in campagna, si fanno DX con l'antennino, che brutto. già me lo sto immaginando. Già mi sto immaginando la situazione. Ma vai, i giapponesi sono fuori come delle ridicole, no, cioè, cosa gli vuoi dire? Cioè, già ne hanno combinate, continuano a combinarne, quindi figurati. No, ma ti ripeto, questo qua era dentro il cruscotto di un vecchio camper dismesso, un vecchio freccia della Hernag, insomma, fermato. Ho staccato questo e l'antenna che ti avevo detto, quella veicolare in vetroresina, alta 1,75, non so se sia della Sirio o della Midland, comunque adesso è riposta lì col suo cavo. Volevo togliermi il gusto di comprare l'adattatore da PL a BNC e provare il portatile con la boomerang. Eia, da Fusaro lo dovresti trovare, è il più comune. Eia, vabbè, comunque noi abbiamo le stesse limitazioni col PMR noi, mentre negli Stati Uniti hanno antenne esterne, antenne veicolari, su quelle bande, ripetitori, potenze anche elevate, poi vabbè, dice, lo fanno anche qua, ma non sarebbe legalissimo, anzi non lo è per niente. Beh, Luca, bella, lo so, sono belle, guardate, però prendono troppo spazio. L'altra, la prima che siamo andati non prende spazio, è appena più grande di un veicolare, solo che 23 cavi e basta, però. Ma così ci vanno bene, ma quelle grandi, no, dai, no. Perlomeno qua non ho posto, non. A me piace il Galaxy Saturnecco, quello è troppo bello. Io mi sto cercando, lo ripeto, un tutto, però da non spendere le solite 150 euro, capito? Perché con 200 euro ho trovato tutto bello modificato, come solitamente si utilizza in Colt, capito? Eia. No, guarda, uno Gio Maria di Saturnecco che ha la scheda Colt, esce bene con la radio, bella, proprio non la vende. E poi se la vende già se la fa pagare bene, beh, fiammata, io l'ho vista. Lo so, no, così no, comprate così no. Quella è la radio che vale almeno 600-700 euro, Ah, finisci, non ti mettere di queste fissature anche tu come fanno gli altri. È fiammate, poi ce l'ha tutto modificato Colt, cattano. Vabbè, se tu ci dico il parere, compratela. Io per prendere una cifra lì mi compro un bel HF, come dico io, e se la mangio con la radio. La notte grosso è, lascia perdere, Luca. Non stiamo uscendo dall'uovo. Ti ripeto, la stessa identica radio, con 200 euro di più non sono riuscito a farla passare, la stavo prendendo a Porto Torres, quindi senza andare lontano da ieri mattina. Ah, vabbè, ma io non devo comprare niente, solo che ha quel valore lì perché la radio è nuova. Adesso non mi ricordo quel modello. Adesso c'è un nome questa radio, non è il modello quello classico, ecco. E poi è nuova, tenuta proprio la vetrina e modificata a Colt. Già sono a piedi, non ti preoccupare. No, non c'è problema. Perlomeno per me, poi, per gli altri facciano quello che voglio. Riprendi il cingiano. Vabbè, me la giusto perché adesso mi è passato un po' di mente. Per Luca, quanto ti sta arrivando di segnale su Lu? Ah, passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, controlla Santiago, controllami Santiago, 1, 2, 3. 9.30, sì. Capo, anche tu sei qua, 9.25, a strumento, non so, sempre prendendolo con le pinze, comunque pieno. Cosa stai usando? È un vecchio baracchino veicolare giapponese, un 40 canali, però è quartato sino al 27. È una bella radio che questa qua, è bella, sì, bella spinta, bella radio. Quartato addirittura? Sì, quartato, sino al 27. Quando l'ho aperto per regolare praticamente lo smitter, ho visto, ho controllato tutto, sono sicuro che Marco impazzisce se gli faccio vedere l'interno, vabbè, adesso non ne voglio smontarlo. No, io credo che fosse PLL, e quartzati siamo già a metà anni 70 ancora, sì, quando sono arrivati i primi PLL sui baracchini, grosso modo, fine anni 70, mi pare una cosa del genere. Aspetta che ho la pizza in bocca, credo di sì comunque. Sì, perché mi ricordo che il predecessore dell'Alan 48, i predecessori erano già a PLL, non avevano quarci. Eia, vabbè, buono, sì, quanto tempo è passato, quando compravo i quarzi per i portatili, li compravo da scarpa i quarzi, 10.000 lire e di 2 quarzi, uno per la ricezione e uno per la trasmissione. Vabbè, ma lì erano portatili, ma se non c'avevi tre canali non spendevi molto, capito? L'11 te lo davano già come canale fisso dei portatili, cioè sul canale standard, ecco. A proposito dei portatili, adesso mi ricordo, ieri o avantieri è entrato, adesso mi sfugge il nome, è entrato un CB con un baracchino portatile, un Inuit, credo 6 canali 3 watt o una cosa del genere, se non mi ricordo male, da dentro casa con l'antenna telescopica, riuscivo a sentirlo, e comunque già fa piacere, considerando i vecchi apparati così dentro casa che riescono insomma a tirar fuori un po' di segnale. Massimiliano, ma per caso quel ragazzo della corte che diceva di essere dalla corte? Massimiliano Bulldozer. Ah, lui era. No, ce n'era un altro, da Via Rockefeller. Ah, non lo so. Sì, era da Via Rockefeller con un vecchio portatile Inuit, dentro casa con l'antenna telescopica tirata su. E, insomma, giusto un controllino così, abbiamo fatto due chiacchiere al volo e arrivava, nonostante tutto. Ah, il gatto di Ogrodde, no? No, è entrato anche lui ieri, a te è entrato una pietà. Probabile lui. Vabbè, io l'ho incontrato da poco lì, mi ha detto che non stava entrando. Anzi, non stava entrando, se non mi ricordo. Ah, che sentivo, se non mi ricordo, cioè, era in ascolto, boh. Magari era lui. Probabile, ti ripeto, adesso mi sfugge il nome. E comunque, insomma, fatto sta che col portatilino già si faceva, cioè, riusciva a farsi sentire anche dentro casa. E a Puglia, prima era diverso, là. Prima, vabbè, poi dipende anche dalla distanza. Poi il portatile, cioè il portatile è quello a batteria o alimentato con l'alimentatore? Boh, adesso non so con cosa stesse andando, se stava andando con le sue batterie o con l'alimentazione esterna, boh, non lo so. Comunque riuscivamo a sentirlo. Ah, io mi ricordo quando ho iniziato, no? E poi c'avevo questo portatile, con lo scooterino, stavo tutto il giorno quando stavo in giro, no? Poi staccavo la batteria, come si dice, me la usavo come batteria, non mi durava molto, si scaricava subito. Ho capito la crocchio, sì, ho capito, usavi la batteria dello scooter per alimentare, ho capito, ma che portatile era? Ma sai, era un Intec, se non mi ricordo male, un Intec era. K, e io c'ho, ne ho uno di portatile, un vecchio Alan 38, 40 canali in AM, con commutatore di potenza bassa e alta, antennina in gomma, insomma, ha un po' di anni, però già dice ancora la sua. A me piace, sei fatto bene, però il 48 modificato. Allora, se un disco così, ma non c'è propagazione a fare un paio di collegamenti. Cioè, costa un botto, cioè, voglio un patrimonio per farti un baracchino tutto modificato. Troppo caro, però mi piace. Lo voglio, lo do io. Lo do io, no, io me lo voglio un onnaggio. Sì, io via, esatto. Cioè, vabbè, dato per quello che entro, però la verità, quando fanno i collegamenti già si fa rispettare. No, lo do io, a pochi soldi anche. Tanto modificato a conto, però 120 canali con il watt, fatto il watt, però non ho fatto mettere l'eco, cioè ho abbinato la camera eco al posto dell'eco interno, perché a me sinceramente l'eco, a fare sempre con l'eco, non mi piace, quindi hai la possibilità di toglierlo e di metterlo quando vuoi tu. Ah, non è dentro la scheda? No, non gliel'ho fatto mettere scheda eco, ho fatto fare solo il watt e i 120 canali. Ma io ho detto che a me piace modificata a cotto, sai, quell'effetto che fa. No, ma poi non, cioè, non, ripeto, non sono più in treno, non usiamo il vozzo. Però se capita magari due chiacchiere, capito? quando c'è propagazione va bene. Sì, l'ho prestato Antonio per Antonio Riserva, l'ho prestato con un valvolo 250 watt per farlo funzionare, perché per vedere, per farlo sentire, diciamo, per farlo sentire anche io come usciva. Effettivamente con il lineare, dandogli troppi watt, va appena in saturazione, però fuori va più che bene quando fa gli ex. Ha voglia di lusso. Vabbè, se cos'è. Mi sa che l'anno scorso ho fatto ascolto, ma poca roba, propagazione. Prima sì, già ti divertivi, dai, facci qualche collegamento, ma va, c'è anche il fumo in continente, aria bassa. No, aspetta che arriva il caldo, poi vedrai che la propagazione arriva anche a 9-10 qua, che non è forte, per poco non ci sentiamo uno con l'altro. Bizzal ti ha rovinato parecchio, però il dual mic, ho sentito una caterva di autotrasportatori, tutti si sono stabiliti sui canali nazionali, ma per esempio il 5 è deserto, prima qualcuno sentivi, guarda, c'è una cosa incredibile, è colpa della Midland. Ma cagata bestiale, Marco. Ma prima di tutto, come dice un radioamatore, non è radio, cioè sei in rete, però molti, sai, che ne so, si trovano in Inghilterra, premono il tasto e parlano con l'Italia, altro che tarare antenne, lineari, ui, un po' li capisco, Sì, ma com'è la passione della radio? Scusa, fatti una domanda e dato una risposta. Stai andando con internet, ma è finito, giusto per dire, cioè, che gusto c'è parlare con l'Inghilterra, ma? Beh, loro lo fanno per comodità, ma non per passione, solo proprio per necessità. Infatti non è radio. Walter lo diceva già quando comparivano queste cose digitali, Ecolink, che con lo smartphone parlavi in banda amatoriale, dice no, questa non è radio, non va bene. E gli do ragione, e do ragione a te, infatti. Ma giusto quello. Poi giustamente uno, io l'ho provato, non è che l'abbiamo provato anche con una persona che è partita lontano, sì, ha funzionato, però voglio dire, a quel punto faccio prima a telefonarti e niente di che, no, vabbè, a chi piace, a me no. Chiamasi surrogato. Eia, è un surrogato anche strano, però. Infatti, scusate un attimo. Ok. Ci sono queste radio Enrico, radio vabbè cinesi, no? Praticamente ha l'aspetto di una radio, ha il microfono palmare, però dentro c'è uno smartphone, hai il display dallo smartphone e praticamente lavori con reti tipo Zello o roba Ecolink, è pur sempre interconnessa poi a segnali che vanno in aria, però cioè sei in rete, sto usando internet, non... infatti ho detto vabbè. E c'è chi la usa per comodità, magari gente che non ha voglia di sperimentare, di non piazzare antenne, di non far nulla e finisce lì. E vabbè. Infatti ho detto, lì ci vedo il futuro delle bande amatoriali, finiranno tutti a parlare in internet, su internet. Mi secchiù. Ma io non lo sento, eh. Secondo me è un bluff. Avanti, secchiù, avanti. Lupo grigio. Ciao Lupo Grigio, Santiago sei circa Radio 3, però la radio è un po' bassina, ma sei in locale qui o sei in propagazione? Lo senti? No. Poco ho capito, la modulazione è bassa. Lupo Grigio, Santiago sei però radio poca. Secondo me è un portatile in locale, va bene. Luca, tu lo senti? Avanti Lupo Grigio. Allora, ti ascolto un po' basso. Ho capito, Cappuccini, confermi? Anal 42. Allora, Cappuccini, vabbè, io sono di fronte, strano che arrivi così in basso. Forse magari sei dietro, dall'altra parte, ecco perché non riesci ad arrivare qua. Oppure magari hai le batterie scariche. Sicuramente a me mi ascolti bene, confermi? Ma mi sembra che sia Cappuccini arriva così in basso. Santiago 2. Radio 1, quanto ce la faccio a capirlo. Tu lo senti, Marco? È sceso a 5, ma la radio non la capisco. Sai cos'è? Detto, cioè, i portatili di una volta avevano quegli antennoni belli da un ottavo d'onda, lunghi 1,30 m, no? O 1,20 m, poi il resto era dentro il portatile, no? E quelli imbattevano un sacco, però i portatili attuali, soprattutto gli ultimissimi modelli, hanno antenne da 15 cm, super caricate, no? Non vai da qui a via Bellieni, non prende, sono 200 metri, no, no, non arriviamo a 200 metri, no? Non ha senso fare i portatili così adesso. Boh, sparito mi è. No, sta parlando. Tu lo senti, Gianni? Santiago, qua arriva un segnale di Santiago, 1, 1 e mezzo, e si sente rumore in mezzo al QRM, ma non riesco a tirarlo fuori. Ma stavo io Cappuccino di fronte, proprio di fronte, a una fucilata, no, Tino? E allora? Mi sembra strano arrivare così in basso, magari c'è la batteria bassa. Vabbè, comunque io adesso non mi ricordo il nome attivo, fai qualcosa perché arrivi in basso qua, cioè noi siamo qua in zona, io mi trovo qua al monte, Marco sta praticamente ciò di fronte, ecco, allora verso Luna e Sole lì, poi Gianni lì vicino a te praticamente, e arrivi molto basso, No Marco, io non lo sento. Ho capito che ha montato un'antenna da 53 centimetri, però probabilmente interna, non lo capisco, radio 2, proprio è sceso il segnale, non so che fare. Dunque, sì Gianni, tu l'ho visto, la LAN 38 era un classico, c'ha già l'antenna migliore, pur essendo in gomma, è già più lunga, ricorda molto quelle antenne delle radio della polizia sui 70 MHz, no, quelle che usavano prima, c'è l'antenna di gomma, ma sarà, quanto sarà, 25-30, può essere. Adesso le fanno di 15, proprio antennine, non ha senso un portatile con un'antenna del genere. Poi i portatili nuovi non escono di radio, io l'ho avuto uno, era una cosa imbarazzante, non riesci a farli pompare di radio, una cosa folle, erano molto meglio quegli anni 80, molto ma molto meglio. Eia, io guarda, qualche tempo fa con quel portatile lì ci ho parlato anche dalla corte, ci siamo anche sentiti, non so se ti ricordi, con quella LAN 38. E niente, già semi, spazi aperti già tira, dai. Ceia. Comunque gli antennoni dei portatili di una volta erano un bijou, cioè in zona aperta o andava, se arrivi su un terrazzo imbatteva un bel. E poi li hanno fatti sempre più corti. Adesso l'Alan vende l'Alan 42 per esempio, no? Ma non ce l'ha, pare doppio room ce l'ha, ma non imbatte, non fa 100 metri in città, cioè come c'è un palazzo è una cosa folle. E quello che avevo io era molto molto simile della Intec, non serve a niente, proprio a regalare i soldi. Va bene, detto ciò devo procedere, dai, prendete voi. Oh, le 10 sono fatte, minchia, scusate la parola, vai Tino, devo procedere qua. Devi procedere, ma devi continuare a mangiare o cosa? Mi devo iniettare la dose di somatotropina. Ecco, non ti sei fatto, ok, vai tranquillo, ma siamo qua. Perlomeno, ma ancora un po', poi anch'io mi ci imbarco, perché oggi è stata una giornata non un po' stressante, anche se era una bella giornata, sai, stando sempre fermo, secondo me anche di più stando fermo che mangiando, bevendo, che insomma, no, muovendoti. Andare, dai Luca, riprendi. Io ho passato la notte un po' così, zappato, gola, mamma mia, infatti adesso un po' di spray, sono spruzzato, come si dice, però quando c'è la congestione nasale, non si stappa, manca a balla, speriamo stavate di dormire, dai. Vabbè, certo, no, noi, ripeto, ero a Ussica, c'avevo un torneo di mio figlio che per giunta non era la sua squadra, diciamo, l'hanno chiamato giusto per ad aiuto, perché è una squadra che prende più batosta che altro, e siamo riusciti tra virgolette a arrivare secondi, ecco, quindi è un bel traguardo per quella squadra lì, perché sono sempre stati battuti da tutti, quindi con tante squadre che c'erano hanno fatto una bella figura. Meglio così. Vabbè. Messo domani c'è un compito da consegnare, uno l'ho già consegnato, ma così attira. Con il passaparola si lavora, si lavoricchia, non si lavora, si lavoricchia. Poi sto facendo un affarettino, con questo tipo praticamente mi saranno tre portatili non funzionanti, questa manella non funzionanti, completi di alimentatore, di cui due, secondo me lui è negato, sono alimentatori bruciati, comunque vabbè, mi saranno tutte e tre completi di hard disk, RAM, tutto quanto, 40 euro. Allora, insomma, se potresti fare l'affare, perché metti l'alimentatore, te li vendi tranquillamente. Adesso io appuntamento venerdì, ho detto se era possibile vederli, poi vediamo. Vabbè, comunque alla fine già se hanno i pannelli LCD nuovi già è l'affare, dai, è fatto. 40 euro cosa vuoi, lo paghi 50 euro, ma anche un fai usato, un pannello LCD di computer, quelli a LED costano una quarantina di euro usato, 35-40, alla fine va bene, dai, io glieli prendo, buonanotte, poi me li uso per pezzi, ci sono gli hard disk, le RAM, sai, queste cose così. Veglia, no, io adesso vedo un po', dai, devo sentire un professore di scuola che lui praticamente tiene conto l'informatica, sono arrivato secondo praticamente, quando glielo ho chiesto mi ha detto ho dato proprio la settimana scorsa, ma tu devi vedere quel computer, a me interessa un computer fisso, perché portatile l'ho preso e va di lusso, lo sto usando come computer fisso, anche se quest'estate lo porterò con me, però al momento lo sto utilizzando come PC fisso. E niente, detto, sei arrivato secondo, sono per avere regalato, ma sai quanto memoria aveva e quanto era veloce quel computer? Io il cambio lo spesso perché a scuola, sai, vogliono sempre aggiornati, e però era per casa era l'ideale, ho detto vabbè, quando ce l'ho la prossima volta si ricorda di me, e sto facendo un lavoro a vari punti, e niente, quindi stavo mezzo barattando, ma lui ha detto no, te lo regalo senza fuori fare tu, fai tu, io te lo regalo. Ho detto vabbè, sono contento, grazie. Poi vabbè, ma che cosa? Giustamente, perché contraccambiare bisogna sempre fare, se no restare in debito con le persone a me non, tra virgolette, non piace. Vabbè, dai, magari già contraccambi diversamente. No, io ho un fisso a casa, sempre di questo tipo, tramite Luca, è sparito, è un Lenovo, va bene, perfetto, ma siccome lo volevo bene, ma poi ho detto, ma non ci sa mai, ma lo tengo di scorta, c'è questo portatile che, cioè portatile come sono fatti, no? Si spengono da oggi all'indomani, e vedo che me lo tengo, non me lo vendo. Poi, se quello là si fa sentire, glielo restituisco pagando, e se no pazienza, poi giù per lui. E così si fanno gli affaretti, io lavoro così, prendo, compro, aggiusto e vendo, è l'unica, se no non vai avanti. Ma è giusto, se ti capitano tutto è guadagnato, per carità, non stai rubando, stai comprando, stai aggiustando e stai vendendo, quello è giusto che sia così, per carità, sono d'accordo, io anche. Ti ho anche detto, se ben ti ricordi, che poi vabbè, non mi andava bene perché non tanto per me ma tanto per mio figlio, sono però l'avrei preso io. Poi è successo che gli ho dato anche il buono del coso, di 400 euro sono comprato nuovo, quindi. E invece io me l'ho preso a seconda mano, ma è come che era di prima mano, perché se vedi questo qua è la vetrina, perfetto, ma la trantuni a me, e qualsiasi problema spero che non lo abbia, però so dove rivolgermi, capito? Certo, vabbè. Avanti Gianni. Eia, mi è venuto in mente che l'amico che è entrato poco fa, Lupo Grigio, si è affacciato qualche giorno fa lo stesso. Ecco, adesso mi sono ricordato il nominativo. Cioè, è entrato un paio di giorni fa e lo stesso era, però era più comprensibile. Oggi era veramente proprio molto, molto, molto basso. Sì, già, anche io mi ricordo il nominativo e l'ho anche sentito, solo che oggi non l'ho sentito. Sì, oggi è proprio zero, in mezzo al QRM si vede, spostava appena la lancetta dello Smither, ma non, io personalmente non riuscivo a tirarlo fuori. Aspetta, oh Luca, vabbè già non credo che ti dia fastidio, già, Luca ti voglio far ascoltare una radio, poi ti dico cos'è. Vai. Vabbè, te lo dico io, conosco un punto che così almeno, perché la spostata è frequente e devo rimettere le frequenze un po' in ordine, aspetta. Vabbè, ma aspetta, io il tuo nominativo gli anni lunga offerta, forse qualche anno fa entravi anche. Sì, forse col portatile, entravo col portatile ogni tanto così. Beh, infatti te l'ho già sentito, ma qualche anno fa. Metto che sei di Sassari di Vecchio, così è. Zona stazione, dai. Ho capito. Vabbè, io ripeto, non sono qua per caso, perché sennò sto trasmettendoli in PMR, quelli che mi sentono, qui da Santa Maria di Pisa. Capa, una curiosità se si può dire, Lu, che antenna c'hai piazzata? Mantova 5. Ah, Capa, bene mela. No, a me Daniele mi ha dato una boomerang grande e l'ho messa qualche giorno fa e niente, quindi adesso giusto per insomma così a livello informativo, perché prima con questo apparato stavo usando un auricolare. Hola Luca. Eia. Lo so che non piace a Gianni questa radio, c'è bene, fai fa passaggio. Magari è troppo amplificata per la sua colonnina, questo è il Lincoln un pochino tirato. Infatti si sente che c'è un po' di... ma va bene comunque, si sente che sta spingendo, bella forte la radio, cavolo. Troppo forte. No, ho detto bella forte, no, assolutamente, va benissimo. Aspetta, questa invece è l'altra, quella illuminata che ti ho mandato, giusto per farti capire come va questa. Diciamo che l'altra è più spinta, molto più spinta. Scusa un attimo, Tino, di chi stai parlando? Daniele, ma... c'è fuori strada Gianni? Capa. Ma lui non è più entrato lo stesso, non l'ho manco più visto. No, già c'è, già è abbastanza attivo, vabbè, in questi giorni forse è indaffarato e non ci siamo sentiti, comunque già è abbastanza attivo. Infatti domani gli mando un messaggio per sapere se di un lavoro, per vedere un po' come si è andata la graduatoria. Se è messo bene, se è messo male. Kappa, avanti ti. No, era giusto già per fargli capire la modulazione di questa radio qua, che è quella con la fotografia che ti ho mandato, quella illuminata, mentre invece l'altro è quella a fianco al mobiletto. Sì, l'ho visto, esce, ha voglia. No, si fa sentire, dai, abbastanza. Aspetta, è comodo. Dai, toni molto acuti, molto bella. L'altra la stessa è bella, ma è più bassa come cosa, come tono. Vabbè, quella la uso diciamo in banda va molto va molto meglio, e a parte che ha le bande e ha la possibilità di andare da come si dice da 26 a 30 credo che sia, boh, se non ricordo ben troppo, non mi ricordo. Già la scarrella allora, eh? Va bene, va. Vabbè dai, meno male che c'è qualcuno comunque, già fa piacere. Ma noi veramente, anzi, oggi è una giornata un po' calma, perché noi solitamente c'è una bella ruota, vero già? Sì, sì, vabbè, oggi era più che comprensibile, visto la giornata e insomma il tempo e tutte cose, quindi più che umano che oggi qualcuno abbia deciso di trascorrere il tempo fuori. No, già c'è movimento, dai, sul 10, quindi va bene così. Ho già, questo voglio fare, aspetta, non te lo posso far vedere, però la conosci, stessa radio, stessa marca di questo, la Fayette, però LMS 200, non so se lo conosci, a 200 canali questo veicolare, va molto bene anche in banda e in corso, non so se lo conosci, un bello massiccio muletto, lo devo far aggiustare perché sicuramente ha qualche cosa nel finale, credo, perché ho preso dall'altro ma non funziona, devo farlo controllare, non so se ce l'è presente troppo. No, sinceramente mi sfugge, non mi sfugge. Allora, come radio credo che sia parità del Pluto, del Galaxy, credo così, perché non l'ho mai avuto, devo provare, vediamo un po' come rende, cosa di avere le bande, ce le ha, il carifer, AM, FM, LSD, tutte le bande ce le ha, 200 canali, una cosa bruttacchia, il colore marrone di cane fuggente, che è l'unica cosa che hanno fatto a questa radio, per carità, se la facevano nera, per me era bellissima, perché poi ha dei pomelloni grandi per regolare il volume, lo square, il rettilineo e così via dicendo, là. Forse l'ho intravista su internet, se è marrone, me ne ricordo, sì, mi ricordo un veicolare marrone, però non mi ricordo se era un Elbex o un Intec, adesso non mi ricordo. Mi ricordo comunque questo dettaglio del colore marrone. Non ti posso assicurare niente, comunque qualcosa di simile forse l'ho vista. Adesso vediamo quando, se riesce a ripristinarle, se si riesce, le faccio sentire, dai, vediamo un pochino cosa ne esce fuori. Il mio amore mancato è stato quello, assieme alle Gain Quinto, quello col bip lungo, quello che avevamo degli animi. Ragazzi, scusate, dai, malincuore vi lascio, mi sta venendo la biocca, no? Magari poi mi addormento e non vi saluto. Già ci sentiamo magari, dai. Tanto vista anche l'ora, magari tanto io domani rientro a casa verso le 9:20, così. Se ci siete magari un'oretta così me la faccio la chiacchierata con voi. Se no mai. Quando ci siete, dai. Ciao, buonanotte, alla prossima. Ehi, ciao Luca, mi ha fatto piacere ascoltarti. Questo senza ombra di dubbio te lo dico col cuore. Già lo sai. Va bene, ci sentiamo alle prossime. Vai Gianni. Ciao Luca, ben sentito, buona serata, buon proseguimento, ci si sente all'improvviso come stasera, alla prossima e buone cose, dai, avanti Marco. Ehi, ciao Lu, alla prossima, dai, cerca di entrare anche qua un po', non solo in PMR, dai. Ma loro entrano in PMR perché sono due gatti, sono attaccati, porca miseria. È vero. Dai, se capita, vediamo un po', magari me lo piatto di nuovo giù, vediamo, dai. Non è che mi ha detto niente, non mi dice niente, però sono io magari che poi rimane in mezzo ai piedi con sto coso, su comò, lì, in cameretta, non in camera da letto. Vediamo, là, secondo me mi sale domani lo piatto. Allora Luca, se c'è da consumare è meglio non metterlo. Ah, consumare si consuma un'altra parte. Allora va bene. Sai che non voglio tenere in mezzo ai piedi lì, capito? Non, perché entra, pulisce, fa. La verità non mi ha mai detto niente, quando gli ho chiesto se potevo piazzarlo non mi ha fatto problemi, ma dai, vediamo, secondo me lo voglio mettere in marcia. Dai, a domani, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte, buonanotte, siamo qua, quando vuoi. Quindi Marco, il tuo amore mancante, ti piace? Io all'epoca, a me piacevano quelli che non avevo. Io in quel periodo ho avuto il multimode 3, sì, che aveva 200 canali, tutti i modi di emissione, però prendeva tanti di quei colpi, era sanguinario il battimento che prendevo. Mi piaceva l'LMS200 anche perché era particolare, aveva, se non sbaglio, 50 canali per banda, o sbaglio, mi ricordo che ne aveva 100 sopra e 100 sotto. Mi piacevano le pomelli, quello che comporta l'apparato, no? E poi leghe in quinto mi piaceva, possibilmente quello, il 2795 di X, che era l'unico, credo, che avesse il VIP, era Modigliani, non so se ti ricordi, quello che faceva qui. Sì, questo invece ha, se non mi sbaglio, il VIP tipo la quaglia. Non mi ricordo adesso, l'ho sentito variamente. Lei. Ah sì Marco, vabbè, io ti parlo dell'87, inizio 88, che ho iniziato a così per gioco, mi sono seduto in furgone economico, facevo il trasportatore, questo qua aveva questo CB, il Midland Alan 48, bellissimo, ai suoi tempi, quando poi già elaborato, lui aveva un B550 sotto, quindi sparava alla grande, facevo il viaggio con lui, io a grande distanza, insomma, ci facevamo sentire a sassi, ma tornando indietro al tempo, ti ripeto, c'era un sacco di gente che tu non vedevi altro che antenne crescere alla veloce come i funghi, quindi mi avevo preso questo baracchino qua, piazzato subito in macchina, divertimento a mille, no, lo voglio piazzare a casa, Mantova 1, vai, piazziamo Mantova 1, questo apparato, guarda, io l'ho amato ma l'ho anche odiato, nel senso che amato perché usciva benissimo in radio e era una coppiata con il più 5, il Midland 48 e il VV131, quindi era già una cosa che spingeva, non era elaborato di sé, ma cercavo di aiutarlo così. Però non potevi ascoltare, cioè se c'era gente alla veloce che modulava in altri canali, abbattimento zero, e quindi diciamo che come stazione fissa è stata la mia prima stazione fissa, ma è durato ben poco, perché subito dopo mi sono appoggiato a Claudio, ci abbiamo ordinato subito imminente il 140, il 140, e poi subito ho portato a Carlo CH a fargli fare la sistemazione dell'LC, e quindi da lì avevo, diciamo, risolto i miei problemi di abbattimento, perché alla veloce, guarda, credimi, non si poteva modulare se non avevi una radio con le palle sotto. Sì, sì, sì, è vero. Poi di solito che veniva splatterato, dice, ah così, allora cominciamo, iniziavano 100, 500, che 1000, era una guerra, ma io vicino non ho avuto nessuno, tranne Sandro Satellite, che era in Viale Caprera, Viale Caprera, via Principessa Yolanda, no? C'era quello che parlava con, come si chiama, Andalù da via Prunizzetta, mi pare, una cosa del genere. Non troppo vicine le persone, però caspita, pigliavo colpi dalle stazioni forti di allora, può essere Marco 131, può essere tutti quelli che avevano apparecchi di un certo livello, lineari di un certo livello, diciamo. Da Corrado, del grattacielo, quel ragazzo che poi il nome vero è un altro, no? Lui c'aveva Torre Bigio sotto casa, per parlare con Torre Bigio sotto casa metteva 100 watt, metteva il vivo 131 fisso, io non sentivo nulla, era una cosa micidiale, guarda. Sì, mi ricordo, poi vabbè, con Marco 131 io lo conosco benissimo, ho fatto anche tanti viaggi con lui da ragazzino, molte volte allora faceva giro dovevamo passare lì, no? Mi dicevo, ma dove sei andato? Stavano là, io passo a casa a prendere, ma noi ci facevamo chiacchierate fino alle 3, 4 del mattino, cioè cose che oggi, vabbè, sicuramente non le farò per via Trambacco, ma anche quando ero ragazzo te lavoravo non mi fregava niente, cioè passavi delle ore allucinante, delle allucinante in radio, ma scherzando, vedendo, raccontando barzellette, poi Marco quando si metteva a parlare, lui guarda, non c'era altro che a raccontare, non so se tu l'hai conosciuto, di tutto quello che raccontava. Sì, sì, una volta ce l'avevamo visti, vabbè, ero ragazzino, avevo 13 anni, avevo una Fiat, cosa poteva essere, 128, 131, forse il nominativo prendeva, avevo origine dalla macchina, non mi ricordo, sì, insomma, grande all'epoca, vabbè, poi una volta sono diventati i radioamatori, c'era già il sole, insomma era più divertente, c'erano anche certi casini però, bisticci, oppure quando trovavano, mamma mia, quando trovavano il soggetto di turno tipo Sando, Cangambero, lo facevano mille e un pezzo, proprio non c'era pietà, però era più divertente all'epoca, c'era molta gente, trovi sempre qualcuno con cui parlare, se non andava bene un canale, magari c'era l'altra greffetta sull'altro canale, poi vabbè, noi eravamo ragazzini, andavamo sull'uno sotto, su praticamente un canale sotto l'uno, e avevamo la nostra piccola nicchia. E vabbè, purtroppo, adesso i ragazzi, mi ero a Platamona con l'antenna VU, no? Per ricevere radioamatori e coso. I ragazzi giovani, cos'è questa cosa? Hanno riferito all'antenna. Non ne sanno, sono rincoglioniti con questi smartphone, sono veramente rincoglioniti. Poi certi, un ragazzino mi pare si è suicidato perché o la madre o l'insegnante gli ha sequestrato lo smartphone, no? Gliel'ha tolto, questo si è buttato dalla finestra. Si stanno inventando scemi con questi smartphone, con questa tecnologia. C'è qualcosa che non va. È come una droga, peggio della droga. Lo so, è una triste realtà, credimi, perché anche io ho un figlio di 13 anni, effettivamente noto dei cambiamenti di carattere quando sto andando male a scuola, per dire, perché lui non vede l'ora di rientrare a casa per chiudersi nella cameretta, così, allora, tac, siccome io sono il maschio alfa, no? Sai, quando dice una cosa, volendo o niente, ti puoi tirare a terra quello che vuoi, però a me non mi interessa. Via, spacchiamo connessione e te l'attacco non per un giorno, ma per una settimana, non ti basta, per una settimana, allora un mese e così via. Sì, vengo, non dico per carità odiato, perché però so che lui, magari nei miei confronti, certe volte se la prende perché non ho fatto niente, perché mi stai togliendo quello, no? Capito? Però io vedo i cambiamenti, dopo che per dire 2-3 giorni che rimane senza connessione, è un angioletto, cambia carattere, che è una cosa così docile, affettuoso, ma scusa, ma perché devo arrivare a questo punto qua? Io ti voglio far giocare, però questo gioco secondo me te ne mangia il cervello, perché tu quando stai giocando a questo gioco questo, stanno giocando, come si dice, online, frontline, non so se lo conosci questo gioco qua, che sta invadendo tutta la generazione della sua età. Aspetta, forse stai alludendo a Fortnite, scritto Fortnite, lo conosco, sì, e io conoscevo anche il figlio di uno ex amico di famiglia, lui con questi PlayStation, non so cosa ci fosse allora, era come un drogato, a notte tardi lo vedevi con gli occhi a mezz'asta, sembrava uno zombie, continuando a giocare, magari stava morendo dal sonno, e purtroppo queste cose, è vero, danno la dipendenza psicologica. Guarda, praticamente in Giappone, quelli che si barricano in camera e vivono di internet o di videogiochi li chiamano ikikomori, e dice che in Giappone sta diventando un vero e proprio dramma, perché poi se questi glielo togli anche per il suo bene, questi si suicidano, cioè compiono gesti sconsiderati, e poi cosa cavolo è? Io già sono socialfobico, io non Facebook niente, non mi piace, una cionfra, ti mandano di tutto, cose lecite, non anche non lecite, lasciamo perdere. La gente condivide tutto, anche quella roba dei narcos, quando tagliano la testa alla banda rivale, non ci manda quella roba lì. Poi lo vedono anche bambini, è una cosa folle. Guarda, internet sta sfuggendo di mano, secondo me. Se non danno un freno, anche le autorità. Lo so, è purtroppo così. Vabbè. Però qua. Cioè, voglio dire, la tecnologia ci vuole, perché ci vuole, però bisogna prenderla un pochino con le pinze. Cioè, voglio dire, io mi ricordo quando c'era l'afflusso di gente al CB che io facevo mollando la fidanzata e andando attaccandomi alla radio, e non è che sono da meno. E stavo anche alle 3, 4, 5 del mattino, poi prendevo la macchina e partivo a Palau, mezzo assonnato, mezzo pericolante, però quando vedevo, io mi accorgevo vero male, quando potevo prendere il viaggio o meno, allora dicevo no, voglio fare la via tu, davo la macchina mia al mio collega e mi dava lui. Però mi portava sempre a fare quello lì, capito? Ma adesso per dire qua per scherzo, giusto per dirlo a te, ho preso, attaccato la connessione, lui era collegato, è venuto, ma la connessione è tolta, no, allora sto rompendo le balle al piccolino che si sta guardando il filmino anche lui, hai capito? E poi così. E naturalmente poi lui lo capirà di più da grande, che era per il suo bene, no? Che danno assuefazione, come dà assuefazione questi video poker, e lì poi ci buttano anche soldi, c'è gente buttando pensioni, stipendi. Purtroppo lo Stato è un farabutto, perché lo sa che la gente non si sa limitare, la gente non si sa autolimitare, perché non che mettono il trafiletto, può dare assuefazione, allo Stato interessa incassare, capito? Cioè, se lo fa la malavita, il gioco d'azzardo è vietato, se lo fa lo Stato va tutto bene, capito? Poi gente che si è rovinata proprio per questi giochi, io chiamo sempre video poker, ma quelle macchinette dei bar, già hai capito? Non lo so, certo lo Stato è come la mafia, capito? Non è frega che ti rovini, guardate che paghi, che lo Stato ci ricavi, poi e giù va a te. Loro dice ti hanno avvertito, no, la gente non si sa limitare, né negli smartphone né per altri hobby, diventa una dipendenza. Bene, già stava diventando per me una dipendenza col computer, vabbè, io mi divertivo a, non si può dire, intrufolarmi, non dico altro, intrufolarmi. Stavo diventando anche quella una droga, poi mi hanno tirato le orecchie e mi hanno avvisato, no? La prima si perdona o condona, non mi ricordo, vabbè, e tutto lì. Poi, per non contare tutto il resto, vabbè, fatti di cronaca, quelli che hanno mezzo ammazzato, no, mi pare morto un anziano, poi mezzo invalido, e tutto messo su WhatsApp per avere l'approvazione degli amici che approvavano. E questi non li vuoi fucilare, cosa li vuoi fare? Boh. Lo so, purtroppo la gente. Ultimamente avevo sentito anche di un gioco che c'era online, che se non praticamente non superavi questo livello eri come una cacca, quello e quell'altro, c'è gente che si buttava anche la grattacielo perché non superava il livello del gioco. Ma tu ti rendi conto? Cioè, io guarda, ero in giro per Sassari a un certo punto con degli amici, così siamo andati a prendere un caffè e passa questo treffa di ragazzi, ma credo che piccolo forse ha avuto 15 anni, così, 15-16 anni, cacchio, tutti col telefonino in mano camminando come di zoom. A un certo punto mi è salito lo schermo e ho detto cazzo, ma l'hai mollato questi cazzo e telefono, cercate di un pochino di rovare un po' la patata, cazzo, mi è venuta così, guardato, si sono messi a ridere, cazzo, però voglio dire, intanto hanno continuato a giocare col telefonino. No, quell'età lì, io mi ricordo, io parlo di me sinceramente, forse perché non c'era tutto questo eccesso di tecnologia, però non pensavo a quello, non pensavo alla tecnologia, pensavo a tutt'altro. Sì, sì, è vero, ragazzi, dovunque siano, anche al gabinetto, sono sempre a chattare. Io, guarda, WhatsApp lo uso poco, cioè io proprio quando è necessario mando un baracchino, una cosa, un oggetto che devo far vedere o che mi serve vedere, però poi per il resto non... Poi quelli che guidano anche di notte, ne conosco uno, vabbè, è un amico, cioè fuori città, senza illuminazione, proprio non ci sono lampioni, no, buio, un occhio alla guida e un occhio con lo smartphone chattando mentre guida, cioè se succede che devi schivare un cane, cioè lì non c'è la padronanza del mezzo, pericoloso. Io quando mi chiamano che sto guidando non rispondo proprio al telefono, non rispondo. Anche perché a me non piacciono auricolari in mezzo, non voglio nulla, io casomai accosto, mi fermo, se posso richiamare richiamo, se no non rispondo proprio, è pericoloso anche per la guida mia, a parte che ti multano se ti vedono, è pericoloso, non puoi cambiare la marcia, infatti ho visto gente uscire da incroci, da rotatorie, in decollo, con la cellulare all'orecchio, senza guardare poi, per non spostare la testa di lato. Ma io sono rimasto, questi sono scemi, questi sono proprio da stracciargli la patente in faccia, vabbè, tutti i tempi. Naturalmente io ho avuto il privilegio rispetto a quelli nati, no? Già negli anni 80. Poi abito vicino, no? Quando arrivavi in Piazza Italia, quando passavi da via Bellini a via Roma, dovevi sgomitare per arrivare in piazza dalla gente che c'era, no? La piazza gremita, piena, tutti i gruppi, persone, si parlava lì, il forum era lì, caspita, la chat era lì, questi cellulari, proprio sono cellulari alla fine, tutti incollati lì, vabbè, lo chiamano progresso, lo chiamano, capito? Va bene, detto ciò, dai, le 11 quasi, dai, sì. Buonanotte, buon tutto, ci sentiamo in altre occasioni. Oggi ho tutto o niente, cioè io o non entro mesi o ci sto ore fino a tardi, vabbè, devo bilanciare un po' il tutto. Ok, ci sentiamo, buon tutto e di nuovo. Ok, al prossimo tira, che sto anche perdendo il filo del discorso adesso. Ah, ok, dai, non c'è problema, è sicurezza. Già fa bene ogni tanto caricare. Va bene, dai, sentiamo le prossimine. Io mi trattengo altri 10 minuti qua al PC che sto facendo due cose e poi anche io mi preparo per andare a lavorare domani, se no non mi alzo, perché anche oggi sono un po' stanco. Innanzitutto ho passato, lo ripeto, una giornata un po' divertente, ma stancante. Ok, ci si ascolta Marco, grazie per ciò, grazie di tutto e alla prossima. Ehi, ciao ciao ciao. Ciao ciao Bruno. Ora, 1, 2, 3, prova microfono. Parla ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prove di modulazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci sono? Ci sei, va bene. Perfetto, ti ringrazio T, ci sentiamo, ciao, buonanotte. Aspetta, un'ultima cosa e poi ti lascio. Quanto sta arrivando lì qua? Con questo segnale qua, tieni presente che sto utilizzando 7 watt, 7, 8, non di più. E quasi 9 più 20 col preinserito, sì. Idem. Va bene. L'unica cosa è che questo non ha attenuatore, se non mi sbaglio. No, non è A. Vai da 9 più 15 a più 20 sul parlato, cioè i picchi positivi circa 5 dB e vai a lambire proprio il più 20. Va bene, sì, è una bella radio, bella in tutto e anche le emissioni dappertutto vanno a capo. abbinata con quel microfono che hai provato va divinamente bene. Va bene, va bene, ma devo corteggiare, lo sai che sono amante di questa cosa. In bocca al lupo, è una bella radio, se riesci a beccarla è una bella radio. Buonanotte, ciao ciao. Se no, mi ha fatto piacere utilizzarla. Va bene, ciao, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao.